73 locale 10. Avanti. Ciao già, buonasera. Poi Antonellino, e allora? Ah, ho ben sentito. Mi... Ogni tanto chiamo ma non risponde nessuno, ma cosa sta succedendo? Sciopero generale. Che ne so, io ci sono tutti i giorni, come vedi, come hai chiamato risposta. Ha fatto un giro di canale, chiamo però, non comprendo, ma pazienza, allora come stai? Tutto bene? Sono un po' senza sentirti, ieri era vuoto, ma ieri era vuoto, amato, ma è possibile, allora stavo generalmente in canali bassi o alti, dove capitava? No, io ieri, ma ne sono andato a ascoltare i camionisti che facevano gli ex. Il bailame, nel 45 c'era un po' di bailame di Macedonia, ma... già mi sono divertito lo stesso, stavo ascoltando e boh, non chiamavo perché era tardi e niente, non volevo disturbare, dai, vicini. Io stavo parlando con l'Alemagna, un italiano che era all'Alemagna in canali, che pare canali alti o alti ancora, comunque stavo girando, sentina F, e poi sentivo in E, e stavo parlando lì, non c'era nessun altro, fortunatamente, e tra l'altro l'ho beccato lì, a tardi, che erano verso le 10 qualcosa, c'era una fragazione abbastanza strana ieri, e sono uscito almeno a cercare a medare con qualcuno, tutto lì. E avanti ho parlato col Brasile. C'è un po' di propaganda, almeno quello ti diverte, ma a sentire anche, diciamo, quelli di zona già fa piacere ogni tanto, sentire a qualcuno, ma sembra che, vabbè, è così, pazienza. E oggi lavorato, tutto a posto, sì, famiglia. Raga, Bartone, sì, tranquillo. No, sto lavorando tranquillamente adesso, non c'è più problema. Va bene, non ho sentito più neanche a Leoncino, anche lui sciopero, anche lui sta scioperando, così è. Siamo andati a Pescara l'altro giorno insieme. Vabbè, abbiamo passato una bella serata, cosa avete preso? Qualcosa di succulento? Ho preso due lattelle e una l'ho persa grossa, cazzo, però la coppa è stata mia, mi ha detto deciso, prendo il coppa, ho detto no, mi sembra sui mezzo chilo così, non ti preoccupare. E invece era grossa, cazzo, ma l'ho portata sino ad avvicinarla, a vederla, cazzo, ne ha messo di orata anche, ma te l'ha sfatto e mi ha spaccato tutto. Minimo te ne hai mangiato le unghie. Però c'è perché non la sentivo pesante, perché era lontano, capito? Avevo lanciato un bel. E quindi ha beccato da lontano. Siccome ho messo il segnalino, ho messo un cucchiaino col manico girato, come mangia a tira, no? Tu lo metti la lente in tira e si sente segnale. Come l'ho sentita, l'ho preso la canna in mano, ha dato l'altra toccata e lo fregalò proprio... presa al tocco, dai. E anche che sono inconvenienti della pesca. E Leoncini invece, anche lui ha fatto per la figura, spero di sì. Tre sala che ha preso, Bellini. Ma si è divertito anch'io, dai, già. A me avete passato una cosa di fine settimana alla fine, giusto? Sabato, domenico, ieri, quando siete andati? Ho fatto dalla sera alla notte, abbiamo fatto. Poi si è alzato il vento, ci cioè siamo dovuti andare, tanto è vero che c'è due scatole di esca nuove, ancora senza aprire. Come sempre a Porto Torres. Mi sa che la prossima volta quando capita, se vai, se ti fa piacere vengo, io non so pescare la verità, ma almeno così, per vedere un po' come funziona la situazione mi farebbe piacere, dai, almeno passare una nottata così, fino al mare, già è bello lo stesso. Ma poi andiamo anche a Plattamona, andiamo a diversi posti, capito? Siamo andati a diversi posti con Leoncino e che come siamo arrivati questo qua, Leoncino si è messo troppo vicino a questo qui, no? Si è girato questo subito. Ma che intenzioni c'ha? Non ho capito, non vedi che io devo lanciare qua, ti sposti da qua, tutto un bel strafottente. Hai detto, dai Leoncino, dai, spostati, vedi che ti dirà futtettine. C'è gente un bel stronza proprio, c'è anche il modo di dire le cose. No, dice, no guarda che devo lanciare, spostati un po' fin là. Invece ha detto proprio un bel strafottente, no? E ci è spostato, poi l'engine è un po' pesante, tante volte si aggancia le lenze degli altri, ne ha casino. Ma oh, vabbè, come nel fatto della pesca c'è sempre gente, o per scaramanzia, boh, come dice anche la prepotenza, c'è sempre questa mania, deve avere sempre una certa distanza, e non sa mai che chi li prenda il pesce che l'avrebbe dovuto prendere lui, quello già è vero, meno male, io ho sempre sentito queste storie di pescatori, ma almeno per evitare giustamente, si sceglie un punto e non rompi le palle, nessuno te le rompe, sicuramente morale della favola, no? Io queste regole le tengo conto, e sempre, sempre, sempre, quando vado mi tengo lontano dagli altri, lancio dritto, non lancio mai storto, cazzo lui prende e lancia, tante volte lancia sulle case degli altri, e ormai si incazza. Vabbè, va, ogni se ne accorge se è un principiante oppure no. Vabbè, ma io sempre avevo, diciamo, un tuo punto tranquillo, non rompi le scatole, accesa là, scusa un attimo. E te show my friend, ascolti Italy from Sardini. C'è propagazione già. Sta salendo. Sta arrivando. Sa che sta salendo la propagazione. Ieri ero sul... allora, sì. Vabbè, adesso me lo ricordo comunque, perché ero nel 68, come adesso. In FM, canali alti o bassi, non mi ricordo dove va questa storia. In più dopo il 20, non so in quale canale va, stavo parlando lì. Verso questo è iniziato la propagazione, sempre in FM però. Allora, senti anche tu già, sì. Bra. Anche a te c'è questa Santiago 7? No, non è attivo, non sento nessuno. Oh, non me ne crevente. A me che la Santiago 5 mi arriva. No, meno mia madre. E ieri c'eri, così non ho sentito nessuno ieri. Mi sono messo a ascoltare sul 45 i camionisti. Ma sul 10 e altri canali nessuno, vero? Ho fatto un giro, no, non c'era nessuno, cosa sta succedendo? Cos'è, noia? Siamo entrati io, Grod, e poi c'era anche cosa, come si chiama? Occhi di gatto. Poi il resto tutti a nana, così boh, che strano. Vabbè, uno dice, piena estate, non si va a prendere il sole al mare, si rilassa un po', ma il tempo è quello che è, vento come oggi che è una cosa allucinante, dunque alla fine si sta in casa, intanto in televisione non c'è niente, andrò al baraccotto per fare una chiacchierata, manco quello. Io sabato mi sto facendo qualche cosa, se non c'è bel tempo andiamo a farci un giro al limite, ci troviamo. Non c'è problema, guardi, io sabato sono andato al Blue Star, non sapevo neanche era l'ultima giornata, l'ultima serata, e ci sono andato al trap, l'aria mito, comunque io ci sono nato in quell'epoca lì, diversi gruppi dove mettono musica techno, hardcore, compagnia bella, un po' più che musica il rumore abbastanza assordante, comunque, fatto sta, vediamo un po', ci faccio un salto, sono salito. E verso l'1 e quarto me ne stavo andando, siccome ci ho lavorato anni lì, ci mancava una persona, il Piero Moreso, il padre mi fa, non è che ti vuoi fare una serata, e me l'ho fatta sabato, e ne ho approfittato, mi sono andato, sono stato poi in mezzo alla gente come i vecchi tempi, e mi ho fatto una seratina, là. due soldi, meglio di niente, e ce n'era gente. E ti dico, guarda, che avevo dimenticato di quelle persone, ragazzini, purtroppo, sembra che la situazione stia cambiando, bambini di 15-16 anni, tutti impastigliati, guarda, smascellando, sbavando, e più c'era questa ragazzina che stava vendendo quella medicina che si usa per i cavalli, per un antidolorifico per cavalli, guarda in che condizione la gente sta riducendo. Io una volta ero con un amico mio che faceva servizio ambulanza con me, come la facciamo? Ma io che ce ne andiamo a Ossi, ci ascoltiamo un po' di musica e ci facciamo una chiacchierata, ci beviamo una cosa, e così abbiamo fatto, siamo sentiti a Bustard, abbiamo fatto qualche ballo, qualche cosa, e poi ci è venuto lui, andare in bagno, siamo andati insieme, perché anche lui ha detto che mi sto pisciando anch'io, la verità. E siamo andati in bagno e se non fossimo entrati noi sarebbe crepata di overdose. Questa cinese viola in terra, cazzo, la vediamo viola, prendiamo il Luciano, cominciamo a massaggiarla. Luciano chiama 118, cazzo, cominciamo a massaggiarla, prima uno, poi l'altro, siamo riusciti a rianimarla. E poi arrivata il 118 e portata via, e è arrivata la Croce Gialla. E poi siamo andati fuori e c'era un altro gruppo di cinesi, uno più impasticato dell'altro, tutti quanti con gli occhi in gloria. No, vabbè, sicuramente erano persone tra virgolette adulte, ma questi guarda Massimo avevano, io proprio esagerando già, dai 18 ai dai 16 ai 18, sicuramente anche 15 anni. Ma non ce n'era uno, ti giuro, uno sano, a dirne uno. Io per la verità abbiamo visto persone così da una certa età, dai 18 ai 20 anni in su, ma questi sono ancora minorenni, nessuno senza patente perché sono venuti con il pullman, no? Perché il Bustar dà questo servizio per la sicurezza stradale e non ce n'era uno sano, tutti, guarda, tutti che sbavavano, non si capiva un cazzo, dalla lingua se ne andava fuori dalla bocca, cazzo, proprio guarda, delle larve più totali. E il problema, cazzo, minorenne, porca miseria, ma è possibile che i genitori non se ne accorgono che i figli fanno uso di queste schifezze? Che con l'andare del tempo neanche in 3-4 anni non sanno più dove la fanculo. Io veramente a volte già sono rimasto proprio a bocca aperta, Erano le 7 del mattino, giorno pieno, ero così stanco, porca miseria, ma contento lo sto tempo, ho rivissuto i vecchi tempi, sono andato per 12 anni lì, buono. Niente, c'è 7 pattuglie dei carabinieri, non so quante partite hanno ritirato, quante persone sono state fermate, però guarda, la situazione era per niente allegra, porca miseria. Stanno mettendo sempre lì, Antonio, dove li ho beccati io. Esatto, ce n'erano 7, bloccava chi saliva e poi chi scendeva, poi dalle 6 fino alle 7 e mezza, alle 7 e mezza un ferma a Bustar cercando un po' di tenere sotto controllo la situazione, anche se la maggior parte erano tutti coricati in terra, proprio nel vero senso della parola, qualcuno faceva lo stravagante, ma bambine, ti giuro, bambine. Guarda, come aveva finito la musica, che ha finito verso le 6 e mezza, 7 meno 20, c'era questa tipa che ancora continuava a ballare, convinta che ancora c'era la musica, quando poi se ne è accorta, è cominciata a sclerare questa, ci sono tutte le due buttate fuori, ma teneva tranquilla perché c'era proprio fuori completamente, guarda, veramente uno sclero impressionante. E io sono preso estasi. Ancora non hanno capito che quella roba lì c'era le cellule cerebrali e poi le cellule cerebrali sono le uniche cellule che non ricrescono, si fanno acidi, si fanno queste cose qua, capito? A me lo sai quante volte mi è capitato che me la volevano vendere in discoteca, e le mati sempre non la mano quando me l'hanno chiesto. Anche a me come tante volte, fortunatamente non tutti quelli. Ho sempre rifiutato, ma non ne frega più niente, basta vedere poi come si trasformavano, tanto mi lascia perdere. E credo che questi tempi erano finiti. Poi la cosa più brutta è che sono minorenni. Qual è la cosa più brutta? Sono minorenni. Non ho neanche 18 anni, non so neanche dove c'hanno i piedi. Capito cos'è? E usano queste schifezze qua. Io non capisco come è possibile che i genitori di tutti questi ragazzi che erano lì, non si accorgano che il figlio... c'è qualcosa che non va, porca miseria, è quello che mi stupisce a me. Comunque se l'avessi saputo ti avrei invitato, se sei venuto, sì, a vedere un po' di gente sbacellando. Certo, ma scusami, c'è una cosa mia. Metteci che salgo, là. Ho chiamato un amico, si entra gratis, senza problemi, vabbè che poi non c'è più problemi, non ne ho, ma sto sempre con che parenti di loro, dunque non c'è problema. E così all'improvviso, improvvisata alla fine, buon buio, ho detto, ma facciamocelo avvenire. Sono diventata a casa e Patrizia mi fa nel letto, bravo, sì, allora di rientrarmi, Patrizia sta lavorando, ho detto, non ci credeva, Mi stava raccontando mia figlia che ha visto una speciale notizia, questo dermatologo che palpeggiava le tippe quando andavano a visitarsi. No, quello non l'ho visto. Qualcosa dalle iene, sì, preti. Quelli sì, più di una volta, ma ginecologi no però. No, adesso è successo da poco. Praticamente si c'è la notizia, ha beccato il filmato di questo qua che praticamente a questa tipa gli fa baciare prima i pantaloni, poi di colpo li mette la mano sotto la maglietta, comincia a baciare il seno e poi cerca di baciarselo in bocca, alla fine la tipa prende lo sbatte, lo manda via malamente. Quando sono andati quelli si c'è la notizia, li ha pestati, li ha rotto la telecamera, ha buttato tutti in terra. No, non l'ho visto, no. Ma mi sa poco da fuggire, già, è messo in televisione, diciamo, alla fine c'erano le contate simpaticone. Guarda che c'era di gente stronza, e non c'era anche quel medico che veniva a fare i cosi fiscali, il medico fiscale che veniva a fare i controlli a casa, che faceva di queste cose. No, manco quello sì, la verità non ne guardo mai televisione, proprio sono anni, mi dissocio da queste cose, comunque già è abbastanza, dovrebbe essere abbastanza istruttivo se c'è la notizia, no, non sapevo neanche di quello la verità già. Ma quello è di Sassari però, non di Sassari, lui vabbè, iraniano, ma fatto sa che andava a visitare le persone quando erano donne per palparle, e quello c'è una malattia anche mentale, perché la verità, guarda, stavo a caso ieri con un amico, mi stava raccontando la scena di questa persona adulta, non sposata, mai avuto ragazze, l'ha dovuto ricoverare, penso che sia, non sia niente di particolare, comunque l'ha dovuto ricoverare, perché questo qua c'era questa malattia, che si chiama una malattia, la sindrome del, porca miseria, adesso volevo dire veloce, la sindrome della, come ti posso spiegare, diciamo questa persona adulta non si tocca, ecco, con le sue cose, non si masturba, dunque ha avuto problemi perché aveva la sacca piena, non l'ha dovuta svuotare, ed è una malattia questa, la sindrome della, porca miseria, non me lo ricordo. Praticamente cosa fa? Vai a farcelo fare dalle dove violenta le donne? No, no, assolutamente, sono queste persone, metto la parola giusta, sindrome forte della fecondazione, una roba del genomi lamento, comunque è una malattia purtroppo, sono delle persone che toccandosi per loro è uno schifo, una cosa ripugnante, e col passare del tempo, quando non hai rapporti per tutta una vita, diciamo, hai problemi, hai tantissimi dolori, perché la sacca si deve svuotare dello sperma, dunque devi andare in ospedale e fate fare una piccola operazione per tirarlo via, perché ne ha talmente in quantità che è pericoloso, può anche perdere la vita, e ti dà un sacco di dolori, ed è una sindrome particolare questa, poi alla fine è una malattia, e purtroppo io non sapevo che esisteva una cosa del genere, si è rimasto un pochettino a bocca aperta, ho guardato su internet, è vero, ma non per particolare, sindrome della, porca miseria, non mi ricordo il nome, la parola specifica, non lo sapevi tu questo? No, negativo. E praticamente non sfoga e rimane tutto all'interno, ecco, capito come è tutta la situazione, no? Sindrome cosa può essere? Da sfogo, non si sfoga nemmeno, come cosa c'era la sindrome del seminario, una cosa del genere risultava. Io credevo che veramente c'era questa cosa del genere, ma alla fine a volte ti fa pensare. Io ci sono delle persone che non hanno mai avuto per anni rapporti, escono fuori di testa, perché sembra alla fine una necessità fisica e a volte si comporta anche di conseguenza. A volte queste cose sì, ti fanno pensare, sembrano un porco, però a volte sono delle malattie, capito in cosa mi voglio collegare a volte a queste cose, e poi si vede in televisione, o è proprio una mania, una malattia mentale, oppure una necessità talmente fisica che ti porta a comportarti di conseguenza, capito? Io mi ricorderò sempre quando ero all'elementare, Antone, c'è chi troppo e chi niente, no? Quando ero alle medie, di fronte, praticamente io abitavo, c'avevo la scuola di fronte a casa mia, e nel palazzo a fianco abitava un ragazzo che era a pensione da questa famiglia, che questa signora di questa famiglia era amica di mamma. E niente, un giorno avevo evocato questo mio amico, compagno di scuola, di banco, che rideva come uno scemo e non riusciva a dirmi perché stava ridendo. Mi ha solo toccato, io mi sono girato, ho visto questo qua che era sull'avanzare della finestra, nudo completamente, con un coso che sembrava una pirtica, imbarriato, e che si masturbava, perché c'erano le ragazze sopra di noi, mi capisci? Le classi femminili erano sopra. E quindi lui, per farsi vedere, faceva queste cose qua. E alla fine poi la professoressa vedeva tutti il ridere, non capiva cosa c'è, ragazzi, dove ci avete ascoltato la lezione? Dopo non ne ripeto più, si gira, ha fatto gli occhi sbarrati, che si è sceso giù dalla presa, subito gliel'ha detto, la presa ha chiamato il bidello e l'ha mandato a casa di questo qui, no? Per avvisare che se continuava così chiamava, si metteva anche tutta la schiuma attorno. Vedi, a volte la gente è malata, ma è una malattia, perché senti a volte queste cose che manco ti immagini che esistano, ci pensi, è una malattia mentale, è una malattia fisica, una delle due è sempre una malattia, perché non è possibile. Anche io da piccolo ho avuto, diciamo, tra virgolette un'esperienza, ero abbastanza piccolo, c'era un signore in via, un po' più giù di casa di mamma, mi ricordo benissimo questa scena, guarda, vi do mille lire, se mi toccate, ma ero molto piccolo, noi ce ne siamo fuggiti, era una persona abbastanza adulta, e ce n'è proprio gente strana, la verità, ma guarda, me lo ricordo veramente bene, forse avrà avuto, guarda, un 13-14 anni, una cosa del genere, mi ricordo benissimo, noi ci danno 1000 lire a testa, ci dico che vamo lì, fortunatamente ce ne siamo andati, diciamo, ridendo, ma questo è scemo, abbiamo continuato a giocare, adesso che ci pensi un pochettino, sei più adulto, la figura c'è la testa sulle spalle, ti viene da pensare alla fine, un po' di ragionamento, alla fine te li fai, e bisogna stare attenti, perché alla fine sono persone malate, c'è poco da fare. Tu te la ricordi la faccia di quello lì che ti ha detto delle 1000 lire? Sì, però male sì, adesso è morto, sono passati tantissimi anni, era già abbastanza grande di età. Sì, già me lo ricordo bene, abitavo una piccola casettina con pochissimi mobili e mi ricordo bene anche questo tipo, sai cosa faceva? Si ascoltava la radio, mi ricordo, guarda, come se fosse ieri, e nel davanti della finestra metteva le batterie fuori al sole, che era convinto che mettendolo al sole si ricaricavano le batterie. Per carità, energia solare, no? Però ci mancavano i pannelli, la piccola cosa è quella. E Antone, ce ne so di queste persone, magari è un pedofilo quello. C'era la Luca, mi ricordo che a Sacro Cuore, quando abitava a Sacro Cuore, eravamo piccoli, ci avvicinava con la macchina, ci chiamava e ci diceva, ci parlava di masturbazione, di tutte queste cose, vi dovete masturbare in questa maniera, ci dava l'insegnamento, capito? Per godere di più, ci diceva tutte queste cose qua. Era un maniaco praticamente. E noi alla fine, come lo vedevamo, ci allontanavamo, capito? Faceva discorsi del genere. Non abbiamo mai detto ai nostri genitori e cose, perché magari avevamo paura che poi ci sgridassero, no? Perché ci diceva di non avere mamma, mi diceva a me, non avvicinarti a nessuno, non accettare niente da nessuno che non conosci. Sì, quello è vero, diciamo, per l'esperienza che ho avuto io, ero piccolo, non davi tanta importanza, diciamo, alla situazione, ecco, abbiamo lasciato perdere, avevamo un bel po' di ragazzi, avevamo una bella greppa, all'epoca facevamo le greppe, e abbiamo continuato a giocare, ma eravamo innocenti, bambini, non davi importanza a queste cose, ecco. Alla fine sì, veramente, purtroppo bisogna stare attenti, per noi siamo adulti, dunque, meno male già le sappiamo usare le mani in quelle circostanze, ma per i nostri figli è la cosa giusta, diciamo, metterli in guardia, però alla fin fine è sempre una malattia. Persone che si comportano in questo modo sono persone malate, c'è poco da fare, hanno problemi psicologici, alla fine del discorso è quello. Sono persone malate che vanno curate, purtroppo se capita qualche situazione è tanto piacevole per i minorini che siano difendere, però sono sempre persone malate, quello, vanno curate queste persone. Sì, magari hanno repressioni sessuali, tipo magari che non hanno una compagna, una cosa, e si sfogano in questa maniera. Sì, esatto, ma questa sindrome che neanche la conoscevo, sindrome del seminario, comunque mi suona una cosa del genere, non sapevo che esisteva questa cosa del genere, ci sono delle persone che purtroppo le fa schifo, non la vedono una cosa sporca, capito, toccarsi, e con andare del tempo si fanno del male. Infatti questa persona è stata male, l'hanno ricoverata perché stava, non riusciva a reggersi in piedi dai dolori che aveva, pure alla fine c'era scoperta che era derivata da quella situazione lì. Io manco ci avrei mai immaginato, guarda, quante cose strane esistono. C'è la gente malata, davvero, ma molta, molta. Eh sì, ma vabbè, ma almeno noi fortunatamente in quel lato, se non ne abbiamo problemi. Sì, ma secondo me o è gente rifiutata dalle donne, oppure, cosa ti posso dire, separata e non ha più trovato una compagna e cosa, e quindi sentono questo bisogno sessuale che non riescono a sfogare, capito? Tanti sono così. Sì, è vero, poi alla fine è sempre una necessità fisica, è il fisico che te lo richiede, dunque, tra virgolette sei costretto a fare quello che devi fare, la natura che te lo impone, tutto lì, comunque si impara sempre. A bendare De Bucco il Sarbule. È proprio nato, è proprio gay. vabbè. E comunque ce n'è davvero, e sono adesso stasera al telegiornale stavo sentendo una cosa, che questa città hanno scoperto questi papponi, questi magnacci, che artigianalmente, senza nessuna precauzione, nessuna cosa, tatuavano le prostitute col loro nome a fuoco, senza nessuna anestesia, senza nulla. Giustamente questo, venivano costretti a subire questa tortura, giusto? Allora, ti tatuavano il loro nome, non il nome del prostituto, il nome suo, del magnaccio. E come che di loro più pietà, un oggetto alla fin fine, no? Come una persona che veniva trattata, ma come un oggetto, è una schiavitù al 100%. Si fa con le mucche la stessa cosa, per non andare tanto lontano. E quando c'è capire il bestia, per mostrare che sono i tuoi, li fai una cosa a caldo. E così facevano sopra le persone, capito? E una volta dice che questa qua è stata scambiata perché il suo ha dato un altro pappone, perché il suo aveva perso con l'altro a dadi, se ne giocavano a dadi, capito? Così. Ecco, questi andrebbero sparati subito, immediatamente, senza stare lì a fare il processo. Messi contro il muro e sparati, boh, è finito il discorso. Oi, oi, per carità di Dio, se ne vedono di cose, se ne sentono, sembrano fuori dal normale. Ho visto un filmato su internet, guarda che non è da vedere, che questo qui con la motosega, sega, taglia la testa a questo e poi lo fa spezzatino con la motosega, davanti a un altro, poi l'altro prende, gli passa il coltello nella gola e gli taglia la testa con la gola. Che Dio mio, ma cosa di quei iraniani, che cosa sono? Ma praticamente sono due bande di spacciatori di droga. E quando uno invade il territorio dell'altro, si ammazzano così. E per far vedere chi è più cattivo, usano metodi barbari che mi ha lasciato, guarda, io mica ne ho visto di gente morta e cose, incidenti e cose, però questa roba qua mi ha fatto male, perché la crudeltà e la durezza di quella persona che ha avuto con la motosega a tagliare la testa e poi a tagliare il braccio, tutto quanto fa la pezzettina. E cosa ho detto su internet? E allora? Dio mio, anche queste cose ci sono, no, non le voglio vedere. No, non mi piacciono per niente, guarda, basta. Solo le parole già mi fanno immaginare un po' la, per carità, già ce n'è gente. Beh, poi alla fine, guarda, ce la prendiamo con gli animali e mi sa che sono gli esseri viventi che rispettano tutto quello che li circonda, sono la razza umana proprio. Fa veramente schifo, veramente. Non è, poi questa cosa, questa esecuzione che gli ha fatto, l'ha fatto a fianco all'amico che era vivo, capito? Gli ha tagliato la testa a quello che c'era vicino, legato, e l'altro vivo che vedeva tutto. Per prendere una lezione sicuramente c'è passato anche l'altro, o no? O si è salvato? No, all'altro gli ha tagliato la testa col coltello. Ah, direttamente, allegria. Sono di quei coltelli belli affilati, sentiva che faceva proprio come per rantolare. Ecco, avevo visto un po' di anni fa che l'hanno mandato su internet, era stato preso un 5 anni fa, che l'aveva dato anche in televisione, ti ricordi? Però quel pezzo lo bloccavano, lo facevano vedere, quando c'era la guerra non so dove. Scusa mia ignoranza, ma non mi ricordo che guerra c'era, comunque questi per farla pagare avevano sgozzato un loro prigioniero, hanno dato su in televisione, ti ricordi? Era un inglese, quello che avevano sgozzato col coltello, che lo tagliavano un po' di sega. Esatto, l'avevano attaccata del tutto, poi l'avevano preso per i capelli e la sventolavano come loro trionfo, è proprio quella. E esultavano come se fosse una vincita, una cosa. Tu esiste gente che non ha sentimento, non c'ha nulla. Ma quella, guarda, già le porte in cui vivono, immaginate un po' cosa, com'è loro, il loro modo di vivere, per loro è normale, per noi che siamo tra virgolette civilizzati, queste cose danno un po' di brezza, ti fanno pensare, lì proprio è l'ordine del giorno, si vive proprio così veramente. Ma non sono persone umane lo stesso, io posso capire che non siano civilizzati, ma un minimo di buon senso dovrebbero averlo. Me l'immagino di un'occasione che avranno avuto quando hanno aperto gli occhi per la prima volta, dunque per loro non gli dà nessun fastidio, nessun ripensamento, per loro è una cosa normalissima, o lo fai tu o lo fanno gli altri, alla fine sicuramente le condizioni sono quelle, sei costretto a farlo, a comportarti di conseguenza, sicuramente si vive così e sei costretto, se vuoi andare avanti, è così, orca miseria. È come kamikaze, Antonio, kamikaze è la stessa cosa, vengono promessi proprio da quando nascono. Esatto, proprio così, guarda che mentalità baccata, ignorante, quella è proprio ignoranza, lo stato puro, promettono mari e monti, poi perché cosa, per niente, alla fine sono solamente un sacco di stronzate e basta. Cioè il padre gli dà la condanna a morte perché lo promette come kamikaze, che come lui è grande si fa esplodere, capito? E ammazza chissà quante persone. Esatto, guarda, io pochi giorni fa ho fatto una passeggiata qua vicino a casa e da poco abito nel paese questi zingari. Sono preso una casa in affitto, puliti, tranquilli, vivono cercando, sai, ferraglia, la vendo. Ne ho trovato questo ragazzino, ha detto posso farmi un giro con te? Io non ho fatto mai questo giro. E così parlando, questo ragazzino ha 13 anni. 13 anni e il padre a tutti i costi lo vuole far sposare, salire su, scegliere una ragazza, il padre della sua stessa età, e farli sposare. Lui non vuole sposarsi, non gli interessa niente. Poi dice purtroppo, comanda mio padre, dice a me non mi interessa, sono piccolo, dice voglio giocare, invece no, mio padre vuole che mi sposi per forza. non è che per dire la scegliura la moglie, la futura moglie, non lo sceglie il padre, sale su, la porta giù, se la sposano e ognuno e tutti e due si arrangiano, ma per dire sono minorenni, hanno 13 anni, vedi per dire la loro cultura come funziona contorta al di fuori della nostra. Ma sì, ho capito quali sono, quelli che c'erano i camion per i carichi di ferro, che io ti ho detto, e di chi sono questi carichi? Tu metti una famiglia di zingari che abitano poco qua. Esatto, proprio quello, c'erano due figli piccoli, due maschi, e uno dei due ogni tanto esce, cerca di un po' di comunicare, stare un po' con i ragazzini, molti lo mandano via, sai benissimo il perché. Purtroppo io non c'è nessun problema, tu vieni con me, ti ho fatto mangiare i finocchi selvatici e ha mangiato uno, il secondo dice non ha mangiato perché non riesce a mandarlo giù. Allora li faceva lui a me, me li mangiavo io, sono buoni i finocchi. Lui non dice no, non riusciva a mandarli giù, dice però buoni, dice non li avevo mai mangiati, e poi parla, e scelto lui spontaneo con questo discorso. Lui dice non mi voglio sposare, però mio padre a tutti i costi, tra un po' sale, dice, ne sceglie una su, la scende giù e ci fa sposare. Dimmi tu, 13 anni, cosa vuoi che ne capisca un bambino? Per dire, è la loro cultura, e cosa vuoi farci? Ma com'è questi qui si sono accasati, che solitamente i zingari si accampano con le roulotte, forse si sono staccati da qualche gruppo, sempre che vivono tutti insieme i zingari solitamente. Quello pienamente d'accordo, quello anch'io mi ho fatto questa domanda, però non gli ho chiesto, sinceramente non sono di quei tipi, con la verità non gli ho chiesto niente di quello, però vedo che so che pagano l'affitto, non rompono le palle, anzi ogni tanto gli rompono lo specchietto a pietre, gli bucano le gomme, anche da poco gli hanno tirato due o tre pietre, gli hanno rotto i vetri, intanto c'è qualcuno che gli rompe le scatole, hanno chiamato i carabinieri loro, così mi ha detto questo ragazzino, però loro non vogliono fare niente perché dice che qui stanno bene, dice non rompono le scatole, non voglio che le rompino, questo è un po' di questo ragazzino qua. La verità sono tranquilli, fanno la loro vita, sicuramente avranno avuto problemi sicuramente con il loro gruppo, e sono gli unici in paese che abitano lì, saranno, aspetta, uno, due, sono tre maschi, tre femmine, tutte e tre con altri tre figli, tre, in tutto sono cinque bambini, due, quattro, sei, e su 12 persone abitano in quell'appartamento lì, tutti insieme. In un appartamento? Ah? Avanti, S0. Non ho capito già. Aspettati un attimo. K, Sassari risponde. La stazione doppio room in compagnia di Antonello Barracuda da Ussi. Cambio. Gava, ciao Falcone, avanti Antonio, lo senti Falcone? No, assolutamente, c'ho quel REM allucinante, non riesco proprio a sentirlo. Comunque buonasera, ben sentito da Barracuda, sempre se mi copia, adesso sono al minimo del minimo. Come Falcone, non lo sento. No, negativo. Poi cosa Falcone? Non è che sia in condizione pietosa. No, viene della propagazione, non da disastri. Propagazione? Che forma questo corrente? Almeno entrassero qualcuno al continente, così ci faremmo un QSO di quelli tipo salotto, dai. Te lo ricordi Antonio quello che ci abbiamo fatto per più di un'ora l'anno scorso? E guarda, anche la settimana scorsa mi sono divertito, Milano, Roma, Puglia, Lecce, Bari, però mi ricordo, Sicilia, la settimana scorsa, adesso li visita abbastanza, E dico questo qua di Roma, dice, non ci credeva che stavo muovendo la Sardegna, e dice, figlia di babbo, dice, a fondo scala, una cosa impressionante, dice, mai capitato, dice, lui modula dal 75, che c'è un anno, e dice, la prima volta che è riuscito a collegare uno della Sardegna con quel segnale, immagina di lui, perché chiesto che antenna avevo, e tutto quanto, non ci credeva, allora devo parlare in sardo per farti capire, guarda che modula così, così e cos'ha, e poi alla fine si è ricreduto. E poi uno Luca da Tre Punti, Lecce. No, era una bella propaganda la settimana scorsa. E tutti quelli che hai nominato li ho collegati anche io la settimana scorsa. Li ho collegati anche io tutti quanti. Quello di Roma era vicino allo stadio, al centro di Roma. Mi ha detto, per capirci dove c'è lo stadio. Così mi ha detto. Mi ha detto che mi sentiva molto forte anche a me. Ero in macchina. Avanti, Falconero. Ecco, poi Blanco dalla città del Carraggio, con buonasera. Aspetta un attimino, aspetta. Lo sai quanto tempo ero senza sentirti? Buonasera, posso durre? Ben sentito, due baciotti, Porto Torres. Carpa. Un attimino, c'è qualcosa che sta parlando di Gassinghen. Un attimo. Ok. Ciao Gianni Lupperimo, buonasera. Ciao Falconero, buonasera anche a te. Ciao Antonello Osilandia, buonasera, ben ascoltati. Una patacca sulle spalle a tutti quanti, dai. C'è stato un momento dove evidentemente Antonio Rossi non ascolta Falconero. Falcone, mettiti qualche foglio di carta sotto. Buonasera, e ben sentito. No, non un po' senza sentire, comunque sono contento, no, ogni tanto anche tu ti fai sentire. Tutto a posto, sì. Ehi, capo Antonio, ma diciamo di sì, dai. E purtroppo adesso ho preso diciamo dal lavoro. Quindi poco tempo e quindi stasera ho acceso un attimino giusto da far scaldare. Vi ho sentito e sono entrato giusto per salutarvi. Gianni, doppio rumo dell'antenna. Ehi, a me non male. Ciao Sandro, ben sentito, cordialità. Dopo un bel po' di serate che non ci sentiamo, dai. Perché dopo tanto tempo non si può dire. E me Sandro, l'antenna l'hai messa a posto, sì. No, negativo Gianni, negativo, sto sempre usando la solita. Mi è arrivata, ce l'ho qua, la mattava uno, ma non la piazzo, lascio così con lei perché per il momento ho poco tempo già, quindi per il momento lascio tutto così. Ma dimmi innanzitutto come mi stai ascoltando. Ma ti ascolto bene. Io sono con pochi watt, sono uscendo con 2 watt. No, ma ti ascolto bene. Io non so come mi ascolti tu, però io ti ascolto bene, dai. Capo, io ti ascolto, insomma, sono con 48, 5, con 48, 1000 watt, con 5 watt. Insomma, è tutto lì. Sentiamo Antonello, come mi ascolti? Benissimo, qui sono 9 più 15 e una bella radio di 5. È una bella radio di 5, no, ti ascolto benissimo. E io per da parte tua? Ok, Antonio, non ci sono problemi. Anche a te, diciamo, ti ascolto bene. Ti ascolto bene anche a te, diciamo, tranquillo, limpido. Ok, Falcone. Falcone, non mi copia adesso, io la verità non riesco a copiare, dove sta modulando? Aspetta, Antonio, che evidentemente non lo ascolti a fare. sorso, ma evidentemente siete non vi ascoltate la vicenda. Un attimino che rilancio Falconero, poi vediamo se o si ti ascolta, dai, vai Falconero. Se lo sarei fatto pure. Oh yeah, lascia ma perché già è fermo il peggio. Vediamo a Cristo, fa peggio ancora. Oi, vai. E allora Antonè? Dimmi tutto. Robo, senza sentirti, anche tu mi sa che stai facendo un po' troppo bianco, un po' come tutti, come mai? Ma come mai, te l'ho già accennato, Antonè? È un po' preso dal lavoro, vai. Purtroppo poco tempo per poter, non è che non voglio, ma purtroppo, come dice, prima il dovere e poi il piacere. Stasera che mi sono tenuto un po' più libero, quindi ho acceso un attimino, vi ho sentito, era giusto per fare qualche chiacchiere, tutto lì. E già va bene, mi ha fatto peggio, come ti ho sentito, ho parlato, mi illumi, entrato in futura. Lo so, però purtroppo che l'apparato è diversivo. Prima bisogna pensare al dovere e poi l'apparato viene in seguito. Ma più là penso di ascoltarci un po' meglio, perché pianterò tutto nel mezzo, quindi magari ci ascoltiamo anche più spesso, però per il momento ancora sta mai. Ok, allora Falconero, sorso. Ciao Sa, ci sentiamo, dai, buona passeggiata. Fammi sapere se c'è il vento dopo, così mi regolo per domani, che c'è ancora i vermi dell'altro giorno. Allora, se vuoi sapere riguardo al vento, sembra che sia calato, sembra matta buono, perché quando va in calata mangia un bel bescio, perché Buttura è già tutto quello che ci ha lasciato il male sotto e trova anche le scamie in mezzo. Avanti, su, su. Di voi se li sono stati di pigliare di più se li posso due mesi di sono sì. Da Ossi, da casa sua. Ossi alza, va, zona litterale. Ecco. Avanti, break. Che bel fischio. Aspetta un attimino che abbasso, eh. Ciao già. Mi sentito a te e agli altri amici che ci sono in ruota. Antonio Ghirode da questa parte. Avete sentito Fabrizio per caso? Sì, già ti ho sentito io, già vi sto ascoltando, non so che c'è la regia a porco. Fai una cosa, questa greca due sopra, scusate gli amici, prego, già riprendi. Comunque approfitto per salutarvi tutti e tanti salutoni, ma stavo facendo cosa, ma vi stavo ascoltando. Ciao Antonello, ciao Gianni. Ciao Fabri, dai, ci sentiamo dopo. Siamo qua, avanti. Buonasera a tutti. Volevo chiedere, ma... questo falconero dove sta modulando? E a me mi ascolta adesso? Sì che ti ascolta. Non riesco proprio, non io non sento manco una parola, manco una sillaba, la verità. Provato a aumentare l'amplificatore, ma solo io, solo quel REM basta. Poi per lui è proprio zero. Ma a te ti arriva bene già. Fate che tu sei un pochettino più vicino, ma sicuramente c'è qualche antennina così, è difficoltà come trasmissione. Sì, allora arriva bene. Io ti giuro, aspetta, non lo sento per niente. Chi mi chiama, va? Dimmi già, scusami, non ti stavo seguendo. Dipende dalla Vudi, no? Come già? Dipende dalla Vudi. E quali lavori? Te la stai pipando, no, sto cercando di accedere la verità. Hai indovinato, era quello che ero distratto. Che sarò là. Sì, a me mi ha fregato un paio di volte, già, maledetta. Sì, adesso mi chiamo mia figlia e mi faccio portare l'accendino perché chissà dove diavolo l'ho messo. Mi ha fregato un po' a pesca l'altro giorno. Ma si pesca così bene con la sigaretta in bocca, boh. E quello già è vero, Già ti fa compagnia, la verità. Quello sì. Beh, devo regolare una cosettina per significato. Sensazionale. Sì, quello è vero, là... ecco qua. No, che da diavolo, scusa un attimo già. Sì. Sì, la sigaretta fa compagnia, porca miseria, quello già è vero. Almeno pescare una sera una volta al mese, dai, non succede niente. Ma ti stavo dicendo, ma ne ho fumato fatica, proprio come vuole buio ne ho fumato. Cosa ti stavo dicendo? La mia tattica è questa. Metto l'esca, lancio, metto la carmentina e poi mi accendo subito la sigaretta. E quando mi rilascio, mi siedo, tranquillo, però mi fumo la sigaretta e mi controllo la camera e vado bene così. Poi si va, so, avanti. Falco. Yeah. Antonio ha detto che ti sente bene, Falcone. Santiago 2 o 3, però la non è bella forte. Santiago 3, così ha detto. Capo. La radio è buona, già va bene, però la verità, mi dispiace, però la verità, non riesco proprio a tirarne una sillaba, guarda. Ti saluta Falconeo. E comunque c'è anche un BDQRM, io ne ho un bello. Io sono Santiago 5, prima era 7 su 5, e già sono dei giornate un po' particolari questi giorni, questo QRM è allucinante. Appagato, e vabbè. Sono cose che vengono e passano, c'è un po' che c'era un rumore nello stereo della radio della macchina che non si riusciva a tenere nessuna maglia, poi si è andato da solo. No, a volte capita come ieri, per dire, che il Corriere era molto più fastidioso. Guarda, tiravi una volta su in FM e andavi alti o bassi, li beccavi tutti, quelli che li prendevi per disturbi in AM e li sentivi benissimo negli altre bande. Vabbè, sempre in AM, canali alti o bassi, e ci hanno meritato con qualcuno la verità, senza problemi. La maggior parte degli anni ho beccato uno italiano, però non so di dove, Alemagna, una cosa del genere. E quando capita così ne approfitti, qualche italiano lo trovi sempre. Scusami Giacomo, da beccarmi l'accendino. Vai. Attenzione alla frequenza, circondate la città di Trapani, chi ama Gambi o... Sì, Vascherato, buonasera. Ciao, anche a Lucia. Ciao. Ciao Trondio. Noi, Trondione, vabbè. Scusami Luci, arrivo a stesso, con un accendino arrivo. Come si tratta subito, te lo devo dire. Ciao, vabbè, sto bene. Si tira Luci, si tira. Arrivo subito, Ora c'è compagnia mia di Gene Doppio Room, di Falconero, di Sorso, non riesco a sentirlo. E poi non c'è nessun altro. Scappa, ega. Già, come si sente questo barattino? Bene. E sai cosa fai? Eh? E indovina? Non lo so. Il Galas. Galas, sì. Ega. C'è comprato. Il Galas, quello che avevo in macchina. Credo che hai messo con il microfono diverso. No, sempre lo stesso, sempre quello là, quello della Intercet è amplificato. Poi c'è un microfono. Cosa gli hai fatto? No, gli ho cambiato lo switcher, gli ho fatto fare un po' di pulizia e l'ho fatto regolare un po' quella roba, hai capito? Chi te l'ha fatto? Me l'ha fatto un amico. Non qua di Sassari, di fuori. Ah, già capito. Ho capito, Gianni ce l'ha fatto. No, non Gianni Ricchini, un'altra persona di fuori. Questo stava... L'ho ritirato a partire di mattina, hai capito? Ma la consegnare è venuta a casa e mi ha portato qua, hai capito? È venuto specialmente una persona da Cagliari. Da Cagliari? Cappa. Chi, Robert? No, Emanuele. No, come? È un amico che abbiamo fatto il militare assieme e si è dedicato a fare queste storie qua dei barattini, no? Il fatto che ci aveva anche lui degli apparati bellini giù a Cagliari, lui sta facendo il servizio, sta facendo il corso a Cagliari, dunque dice mandamelo giù, sai che te lo controllo e te lo sistemo. Capito? Giuseppe, vabbè, avanti Antonio. Fabi? Sì? Allora, hai 20, sono i 7? Sicuro, io faccio... aspetta, forse c'è un'ora... no, aspetta. No, sono i due, c'è l'orologio avanti, sono i due, perché faccio le 10 con me e le 10 con quello del computer. Ma ragazzi, qua sono io cieco, ho preso il 2 per il 7, dai. Sono il 2. E io ogni tanto sono il 2, io al 10 sto uscendo di casa, ho preso la telefono da parole, però al 10, fra 10 minuti sto di casa, 7 minuti dai, riprendi. Anzi, ne approfitto, dai, sono tutti quanti, scusando, sono entrato sul canale 10, saluto tutti, alle prossime. E perché ti devi scusare? Canale 10 ha passato tutti. No, ma sono entrato così, poi mi ha fatto molto tratto, io la verità l'ho ascoltato, anche a quello, un tre quarti della solita cosa, cosa mi fa piacere, quindi ecco prima di uscire entro e faccio l'orecchio di porco, mi saluta, invece poi mi ha chiamato Rod e quindi ho risposto. Ecco, sono entrato un po' bruscamente, dai, ma comunque riprendete e buonanotte a tutti. Non c'è problema, ciao Fabi, si sta andando via, ciao anche a te Grote. Non so se stai chiudendo, ci farei sapere. Ah, negativo, io non sto chiudendo, però se mi vuoi mandare via basta dirlo, non c'è problema, già lo sai. Cazzo, che l'ha capito adesso, mamma mia. Vai. Sta quieto. E vai, il giabidone. Ascolta, quella cosa quindi la organizziamo, ci stai? Break. Da chi c'è, ti dico la verità. Ciao Salvatore, avanti con la buonasera. Buonasera signori, salutoni a tutti quanti e addirittura per ben il secondo giorno di seguito Salvatore che vi cordializza. Ti sei bello pimpante, cosa hai fatto? 13? Per carità, e allora Salva e Bobore. Capito. Seglia. Quando ieri ti stavo dicendo che mi sono ordinato il marchio quinto con una vincita, non ti stavo dicendo una bugia. No, sono contento per te, guarda. A me fa solo piacere certe cose. Cosa vuol dire quando piove sul bagnato? Vabbè, invece di offrire agli amici di fare una cena dove non paga nessuno. Vedi, c'era l'alternativa di prendermi un marchio quinto. Hai ragione, c'hai ragione anche tu. E comunque Gianni, secondo me fai male, sai benissimo come la penso io, boh, non lo so. È un tuo modo, quindi non è sbagliato, è un modo per me sbagliato di vedere le cose, nel senso che al pari della frequenza dove non puoi sicuramente scegliere chi c'è o chi non c'è, così dove si dovrebbe fare per una cena. Ti metti da una parte distante dalle persone con cui non ti fa piacere interloquire e comunque partecipi lo stesso. Non ci mangio con le persone che non vado d'accordo. Io vado, se vado, vado con gli amici a mangiare, non con persone che magari non mi parlo e cose, capito? Non mi va. Io sostengo. Per me assolutamente non c'è nessun tipo di problema, al pari di come posso condividere una frequenza, posso condividere anche un desco stando per conto mio e comunque non facendomi, o meglio privandomi di quella che è la compagnia delle persone con cui magari sto meglio, capito? E come stai organizzando questa cosa, Antu? Veramente non la sto organizzando, ma ho il piacere, avrei avuto piacere di organizzarla con te, comunque anche perché queste cose conviene organizzarle sempre in due e in tre. Io voglio organizzare qua la frequenza, che poco ci vuole, chi vuol venire, dà l'adesione, e poi andiamo tutti quanti. Arrivati il colticino si divide, si fa un tanto a testa, si fa la divisione e è fatto io. Ma perché, ritornando al discorso di prima, questa non vuole essere, attenzione, una denuncia a quello, comunque una critica a quello che hai appena detto, perché poi come vedi fai un passo in avanti e due indietro, quindi non c'è problema. Però proprio perché secondo me c'è un momento dove questa frequenza, se la vogliamo tenere in piedi, bisogna evitare, bisogna mettere da parte un attimino il proprio orgoglio. Ma orgoglio non significa forzarsi ad andare d'accordo con le persone, significa esclusivamente mettersi nella condizione di dire vabbè, io comunque partecipo, do la mia presenza, la mia adesione. Dopodiché, aspetta che sto fischiando, dopodiché considerando che un tavolo è grande, anzi più siamo e più c'è una distanza, si può anche condividere con persone con cui non si va d'accordo. Vabbè, sono diversi punti di vista. D'accordo. Io comunque, se lo fate, partecipo, non c'è nessun problema. Vabbè, io ti stavo chiedendo qualcosa di più, comunque non c'è problema, eh. Sì, non c'è nessun problema. Chi vuole partecipare, ci mettiamo d'accordo dove farlo, dove non farlo, non tu. Possiamo farlo anche in un agriturismo, non lo so, vediamo un po'. Io vengo. Con la Gerpa c'è l'agriturismo. Vengo. Anche io. Posso rimangiarmi quello che ho detto prima, sì. Che cosa? Che del fatto che si può condividere un desco con le persone che non si possono vedere. Fabri, cosa che è? La frecciatina è per te. E là che va, io mi sto attaccando, sono le 9, Ciccio inizia a spegnere che io sto uscendo di casa. Come si chiama? Falconero, avanti. Ma dove hai detto Fabri? 2000? 2000 perché credo che sia aperto. Aspetta, è ben gap. Fa 2000, dai. Fra 10 minuti sono lì, ciao. Ciao, io a prendermi un caffè già io quando andavo a lavorare, non come qualcuno che va a grattarsi la pera adesso. Già lavora anche lui. Ha un lavoro dolce. Lascialo dire. Che a me tutte le donne mi dicono così, quanto sei dolce. E quando dicono così potresti anche offendersi. No, che non ditemi quanto sei dolce, non lo ditemi in sassarigio. Ma la cena. Beh, Masker House. Mica c'è Antonello e anche Falconero di Sorso, fateli venire avanti. Ciao Maschera, Antonello di prima. E c'è anche Falcone. Antonello. Antonello di prima. Falconero. E io Falcone ci viene anche tu a questa festa. Una festa di Magnusso stiamo organizzando, qualcosa da mettere sotto di lì. Ero manco fuscia. Stiamo organizzando una mangiata, tutti i cibi insieme. Chi vuol venire, se no anche se siamo quattro va bene lo stesso. Non c'è problema far come tanto si baga, andiamo a mangiarci due cosette, non è che dobbiamo uscire da casa, ma tanto per stare in compagnia. QRX per me, riprendo la macchina. Ah, va bene. Stavamo appunto discutendo con Antonio se si poteva fare una cosa del genere, allora perché no? Tonello ci sì. Tonello Sarrara. Antonello! Io non sento nessuno già. Salvatore, prendi. E tu d'accordo saresti farsi una mangiata tutti insieme? Come no? Anche perché comunque, in fin dei conti, vi conosco pochissimo e sarebbe l'occasione per cambiare quattro chiacchiere in più. Ma infatti, già va bene. Ma anche se non è fatta lontano, una cosa così, va bene lo stesso. Anche a Sassa, di Porto Torre, se ne sono vicino, va. Certo, non hai bisogno di sperderti chissà dove per poterti trovare con la gente. E ce ne sono di posti eccezionali dove poter andare senza necessariamente fare troppi chilometri. Andiamo a Sugolo. A Gusana, la forchetta santa. a Busan andiamo. Dei fratelli Lato. No, andiamo a Cicolone. Ma tu te ne ricordi i fratelli Lato dove erano, Fabrizio? Come dove erano? Quelli che avevano la paninoteca prima a fianco alla Banco di Sardegna e poi se l'ha comprato il Banco di Sardegna hanno fatto e ci hanno aperto un localone enorme vicino al lago di Busan e io sono stato a un matrimonio lì, ho salvato la roba arrosto ti facevano proprio fatta sulla graticola col fuoco eccetera eccetera, un bel buono la roba che fanno. Non so se sei mai stato tu, perché solitamente chi si sposa a Nuoro lo fa in quella zona lì. Sì, lì ci siamo stati diverse volte, abbiamo fatto diversi capodanni, capodanno e poi quest'anno siamo andati a Pasqua. Quelli sono di Calafugno, pare, no? Anzi no, quest'anno non siamo andati lì, lo scorso anno siamo andati lì, o siamo andati, aspetta, sto facendo confusione, quest'anno abbiamo fatto il Capodanno lì, quest'anno eravamo lì a Capodanno, non sapevo che avevano questo passato di panettieri. No, panettieri. Online, Viololesso. Ah, praticamente a fianco al Banco di Sardegna, salendo da Via Cagliari, lì del Banco di Sardegna, c'era un locale lì che era loro, che facevano tanti anni fa dei panini favolosi. E in più c'avevano il ristorante, capito, all'interno. C'avevano il ristorante e in più facevano i panini. E io andavo sempre lì quando ero ragazzo a fare i panini, però ti parlo di quando avevo 18-19 anni, capito? E cioè, mi facevo sempre panini con wurster, ketchup, patatine e salsa e cose, non salsa rosa, ketchup, anche il tabasco mi mettevo molte volte. Anzi, ma faceva panini che era una favola. Poi lì hanno venduto il locale al Banco di Sardegna, me l'ha pagato una barca di soldi, hanno fatto i soldi così. Ho capito, registrate il vecchio. Ed esattamente dov'era quindi? Era in via Cagliari, la via opposta della Brigata Sassari, dove c'è il Banco di Sardegna, era proprio appena più giù del Banco di Sardegna. Ho capito. Noi siamo andati lì anche quest'anno a Capodanno, ma ci siamo sempre trovati bene, devo dire la verità. Abbiamo fatto almeno un 4 Capodanno e una Pasqua. Comunque, avanti il break, buonasera, in compagnia di Salvatore e di Gianni. E a buonasera, io ricordo che sono di passaggio a dire, prima di andare a Nanna, perché me l'ho preso, devo andare presto e sono stato a salutare. E a Gigi, ci fa sempre piacere che tu entri a salutarci. E che dirti, buonas noches allora. Io la stavo guardando un po' di giornata, comunque una cosa, volevo dire che partiti, l'online, le parole di scusa, quello, uno la fermano molto in quel locale, non farà all'interno del locale anni fa. E era stato tutto una cosa che era successa, dai, e poi avevamo un po' indagato su questo video, uno dei fratelli Qualco che hanno un ristorante in Bessica a Forni, e poi 2 o 3 anni che avevano ammazzato quest'altro di Qualco nel suo hotel. Sempre adesso lì a Fusca, c'è stato una notizia di paera sul lago di Fusca, non so se lo conserva, uno di quei fratelli è stato ammazzato, sparato lì nel locale, e è stato indagato uno di quei Qualco, famosi Qualco, dai, e poi questo dopo qualche anno l'hanno sparato anche a lui, l'hanno ammazzato lì nel lì a Fusca, sempre sull'hotel Qualco, non so se lo conservate o se lo conservate. No, negativo. No, io li conosco tutti e due i fratelli. Perché appunto avevo la paninoteca, io andavo lì a farmi i panini, vi obbligate a Sarma, via Cagliari, a pigliare dal banco di Sardegna, non so se te lo ricordi il locale che c'aveva. Sì, lo noto, perché non è che ricordo, ma ne ho sentito parlare di questa storia, dai, come conoscevo il Qualco e io di quelle zone che stavo per lavoro e... mi ricordo che era successa questa storia, me la ricordo benissimo, poi da serie giornali, televisione, cose del genere, e niente, sapevo che l'avevano accusato, ma non è stato né indagato, come vogliamo dire, questo Qualco non è arrestato né nulla, però era si pensava che fosse per diciamo per fatto di gelosia, non lo so, di locale, di cosa, perché erano vicino, non lo so, comunque era stato questo Qualco che poi vero sia anche lui ha fatto quella fine, è stato, non so se ha fatto il telefonato particolare di fronte all'hotel Qualco di Abbondi, che trovano ammazzato, stavano sparando questo serie di fare. Gigi, così è stato. Io non so oggi, perché no, questa storia non la conoscevo, ma i fratelli non sono tre, scusate, delle Iladu. Io due ne conosco. I fratelli, il titolare, dell'hotel titolare, io parlo di qualche anno fa, e tanto l'hanno mandato lì. Nel telefono ha parlato il telegiornale della Nuova Sardegna, tutto da questa storia. Però perché ci andavo per molto per lavoro, io questa cosa la conosco bene, si parlava di una faida, di una cosa per, come la chiamano lì, dai, capito, Salvatore, era molto uno di quelli, uno dei titolari, l'avevano sparato. E poi di qualche anno, perché mi ricordo che era un pensiero di un pensiero che io avevo molto anche di qualche tempo per lavoro, e questo lo conoscevo di persona, fratello di Giannetto Qualco, famoso canessa, se mi ricordo, stava qua, ma uno dei fratelli però, all'epoca che è successo questo era in carcere, sembra ancora questo di Giannetto Qualco. Adesso hanno collegato questa storia col lago di Gusana, hanno collegato, e non è che hanno arrestato nessuno, hanno collegato che fosse tutta questo omicidio che è stato fatto a Qualco, fosse legato tutto a tutta una catena, capito? Deve essersi innescata qualche faida, poi conclusa senza troppi morti, e comunque i morti ci sono scappati. Cari, siamo pieni noi in Sardegna di queste storie, purtroppo. Quanti di rientro, o Gigi? Aspetta, non ti ho capito, cosa sono? Sei di rientro a casa o dove sei adesso? Non sono a casa, dai, ho fatto la doccia, ho cenato e stavo guardando un po' di televisione, mi stava mettendo un po' di sonnolenza e lì ero per divano. Stavo andando a curicarmi, sono a chiesa, vedete se avete qualcuno qui che non si sente, sono entrato a salutarmi, capito? Non devo andare molto presto, ma mattina non alle 4. Dicono che ciò che è mascherato. Ci sono anch'io. E non sapevo che c'è, io pensi che c'è. Un cino mascherato. E chi è questo mascherato? Fabrizio, avanti Fabrizio mascherato. Poi Salvatore, l'altro amico, lo sento basso basso, Gigi. Va bene, avanti, Roncino. Ciao mascherato, buonasera. Ciao Gigi e ciao Salvatore. Saluto tutti quanti i componenti di nuovo del canale 10. C'era uno che pensava che fosse in propagazione pure, quello che sentiva basso basso, quello era Fabrizio. C'è anche Grosso. Grosse pure, e allora ci siete sentiti, allora scusando, io pensavo che solo avete voi due, dai, scusandomi, dai, salutoni con la buona sera a tutti, dai, scusandomi perché no, ero di passaggio, non sapevo, l'ho sentito a Gianni e a Salvatore, pensavo che fossero solo loro due. Avanti, Grosse, se ti sei. Sì, Grosse, ogni tanto si allontana, stavo praticamente stavo attraversando da casa della ragazza a casa sua in macchina. Ha detto che riprendeva dalla macchina, poi... Perché, Occia, io voglio una cosa, cosa mi hanno fatto un paio di minuti fa. Cosa l'ho fatto? Hanno rubato l'antenna. Vero? Cappa. Gianni Volini, Gianni Volini, te l'ha rubato. Ma non hanno rubato l'antenna della macchina. Ma hanno rubato l'antenna oggi, sotto casa mia, hai capito? Li abbiamo tre furti, ma hanno smontata e portata via. Ma come? Hanno lasciato la palletta, quella che mi avevi dato tu. Vieni l'ami, vieni, se dovessi cambiare antenna, vieni l'ami Giuseppe, perché a volte mi capita che qualcuno me la chiede, come è stato me l'hai chiesto tu e te l'ho data, sai, me l'ha chiesto da poco e non ne avvengo. Vieni, a volte sono sempre utili quelle basette lì, ma vieni, se dovessi cambiare antenna, conservala, mettila da una parte, conserva, può sempre servire. Sì, va bene, sì. Te l'ho data, dai, te la permettere e te l'ho data. E capo, non c'è problema. Ehi, va bene, riprendete. Ma la Turbo 2001 te l'ho fregata. Ehi, non ci va. Ehi, dimmi, maschera. Dai, te l'ha rubata Gianni Doppio Rullo, l'ho vista io solo sopra la sua macchina. Gianni, c'era uguale, ma c'era uguale la via, ma c'era. Io non ce l'ho, la grande è rimasta. No, è vero, guarda, io ho visto io, perché devo farla ricorsa, l'ha accorciata, la terraglia, l'ha fatta accorcia. Gianni, mi senti? Ehi, avanti. E buonasera a tutti. Ciao, Gian Giovanni, da questa parte, ti attacco. Come ascolti? Rapido, rapido. Una voce rilassatissima. E lui dico, no, come senti, sei buona la modulazione. Sì, va bene, già, non ti preoccupare. Sono in compagnia di Gigi Vulcano, di Mascherato, poi che c'è Giuseppe Roncino, c'era anche Grode in questa greca la casa della ragazza a casa sua. E poi, c'era anche Antonello, ma non risponde. Antonello di Ussi, ci sei? Antonello di Ussi, vediamo un po', forse mi ascolti. Non sento più. Manco io, Se assentate pure non è più entrato, non ho capito se si è offeso o che cosa, Andare. Che dire Gianni? Ti passo Leoncino, là. Ciao Leoncino, avanti. Ciao, buonasera. Buonasera. Ah, ben sentito. Invece una bella ruota. Avanti, Lucino. Ehi, mi senti? Sì, avanti. Ehi, stavo dicendo la grande notizia. Cosa mi hanno fatto da sotto casa mia? Che mi hanno rubato l'antenna. Non piantavo l'antenna? Ma hanno rubato l'antenna dalla macchina, hai capito? Ma non sarà quello che... Non sarà quello che ti diceva sempre cosa perché che riscoppiava il televisore, eccetera, eccetera? No. No, io non lo so, guarda, ma senz'altro intorno all'una e mezza, l'una e mezza alle due, c'è stato qualcuno in moto, ha visto questa cosa, con qualche chiave bruva l'ha smontata. Quello è Gianni rientrando da pescare e te l'ha rubato. Mi senti? Che cosa ci è rientrato in paio a picchi? Già! Oh! Mi ha fatto un po' la voce tra burro. I cristalli! In zona qui rubano le antenne! Chi è che sta brontolando avanti? Chi è che ha fatto bobo? Ragazzoni, io vi devo salutare, dai, che vado a farmi l'annale domani mattina alle 4, dai, salutando a tutta la ruota, che vado a farmi salutare la nanna che stamattina mi va a stare spesso alle 4, dai, salutoni a tutti con la buon proseguo, dai, fate buon proseguo, dai, salutando a tutti, non lasciando nessuno indietro, che vado a farmi la nanna che domani mattina mi va a stare alle 4, se mi volete modulare con me, alzatevene alle 4 domani mattina e mi fate compagnia, io vado a farmi la nanna, dai. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Ciao Gigi, buonanotte. Ciao Gigi, ciao. Già c'è Falchetto che ti fa compagnia, non c'è bisogno di lui. Comunque buonanotte, ciao Gigi. Ciao, avanti Gigi. Ciao Gigi, buonanotte, buon trabacco per domani, dai. Notte. Ti libri io? Buonanotte a tutti, dai. Ciao, ciao. No, Falchetto già è puntuale la mattina alle 5 fa salutarti, dai. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao. Ti libri io? Ti libri io? Falchetto, dove già? No, non c'è qua, no. Siccome Falchetto si alza di mattina alle 4 e mezza, alle 5 per parlare con i camionisti, già c'è lui che siccome soffre di insonnia, e allora parla con i camionisti, capito? Com'è la profondità di modulazione di questa radio già? Me lo sai dire com'è la profondità di modulazione? Come ti sembra incisiva, la dolce, com'è? Bravo. Si è abbastanza dolce, dai, è abbastanza dolce. Ok, avanti col beat. Ciao Gianni, ne approfitto, ti saluto, non ti ho ancora salutato. Sì, avanti, avanti, avanti. Avanti, Salvatore, riprendi, riprendi. Riprendo, riprendo. C'è molta propagazione comunque, sento voci da tutte le parti. Gianni, non sei andato a farti una passeggiata serale? Abbassati, devo uscire per forza. Abbassati quel microfono, che pare che ti hanno infilato nello spigolo, raga. Abbassalo appena. Ehi, sei strappato. Ok, provo 2-3. Ora come va? Molto meglio direi io. Prima era 0-16. Un po' così. Avanti, avanti che ha fatto la risata. Ma dove vai al mare? Alghero, vado, non sai. Alghero, Alghero. E c'è gente di notte o sei l'unica persona che passeggi? Ah, sarò l'unico che passeggio, però ho bisogno di rispettare quell'area lì. Capito? Ma lì per questa incidente la regia che guarda, è una cantassa continua. E non trovi nessun medicinale che ti faccia passare questa allergia? Allora, ho che erano palliativi, ho provato perché si dà ancora un po'. Non vuol dire che sono io. Praticamente violacea, che è per inalazione appunto, e niente, nulla, aeroflux, aerosol, niente, ciproxin, peggio ancora. Praticamente fare azione medicina sulla medicina, un casino già. E l'altra volta praticamente mi ha crepato, come che avessi... Dio, è passato il rivastro. Ah, di brutto davvero, Una cosa impressionante. Non solo ti affoga quando fai azione con la medicina, ma si corre il rischio anche di altro. Perché poi, già lo sai, no? I farmaci. Vabbè. E in effetti la cosa naturale, la cosa migliore se fa effetto. Sì, no, no, a me mi fa bene, subito, immediatamente, tu mezz'oretta sono a posto, subito, mi libera immediatamente dai pollini, nonna. Qui ci sono piante di tutti i generi, pensa una cosa strana però già, che io principalmente lavoro in mezzo alle campagne, quando sono in mezzo alle campagne, sto lavorando, le campagne di tutte le zone, sì, sono nelle abitazioni, ma... per la maggior parte sono ci vogliono alberi, compagnia bella. Allora, se ci sono tutte le piante, fiori, alberi di pesco, non mi fa niente. Quando invece sono in queste zone, mamma mia. Oh, vabbè. Lo so perché mia moglie è allergica all'apparettaria e gli hanno fatto anche il vaccino. Solo che con questo vaccino qua gli hanno fatto il braccio tutto viola. Tutto viola, adesso è già 2 anni che non ne fa. Non ne fa e grazie a Dio sembra che non si ripeta più come prima. Prima la prendeva a tosse forte, starnuti, gli si gonfiavano gli occhi. Ma quello che fa a me? Starnuti, si gonfiano gli occhi, le secco della gola, lasciamo perdere già, dai, una sofferenza non indifferente, che veramente ci vuole un leopardo a sopportare questo che di ginocchio io, ma un leopardo con perché ci sono momenti che praticamente vado in veramente in, come si dice, in apnea, con per quanto produce la saliva, capito, compagnia bella di bronchi, è lì che mi ha preso, capisci, ai bronchi. KKP, quindi fa bene l'aria di mare per quello, perché contiene iodio e fa benissimo quella, l'aria di mare, proprio a oggi a mare, come diciamo lui, a oggi a mare bisogna stare, la battigia, respirare bene profondamente e via, e ti purifica un po'. Avanti Leoncino, riprendi, poi fai girare per Salvatore. Cappa, eia, se Gianni vuole venire a trovare quest'estate dal mese prossimo a Alghero, non ci sono problemi, tanto devo andare a fare il guardiano lì, dunque mi troverà tutte le notti lì a Lido. E che ci fai a Lido? Chiamato. Lavorare ho già. Ah, ma sta, già il tuo numero ti chiamano, non ci vuole. Cappa, vabbè, ma se viene ci facciamo una piccola chiacchierata pure, non c'è problema. Avanti, Salvatore. Cappa, ciao Leoncino, non ci siamo ancora sentiti. Ma anche io sono allergico da morire da anni oramai. Ho provato anche io dei vaccini, eccetera eccetera, quello che facevo tanti anni fa, che era con punture sottocutanee, aveva avuto ottimi risultati, però poi non facendo più il richiamo annuale i benefici li ho persi, quindi ho provato un pochettino a ripartire da zero, però non ne ho cavato più piede e quindi sto usando antistaminici e degli spruzzi nel naso per respirare la notte. Tutto lì. Riprendi Gianni. Sì, io vado a prendere, cerco di un attimino di tecciare questo problema qua. Prendo un caffè o tirami su qualcosa del genere. Tirami su perché non riesci. Possibile, guarda. Sta iniziando. Va bene, dai, riprendete, ci sentiamo troppo. Cava, dai. Viviti questo brasiliero. Anche la salute nostra. Chi è rimasto? Vediamo un po' se ci siamo dimenticati qualcuno. C'era Carrascial, cioè Mascherato, va. Ehi, dai, continuate, vi sto ascoltando, mettiamo la faccia. Vabbè, dai, continuate, riprendi già, vi ascolto, fai girare, va. Sì, Mascherato, mi sono perso un meschione sabato, per colpa mia. Che riuscivo a mettere tutto il corpo e ho detto no, mi sembra sui 500-600 grammi, invece era un bel grosso, ha detto ma che ribadito, cos'era? Volato. E dove ma no, a Porto Torres. Due le ho prese, una mi è scappata, ma non ci ha preso tre sara che bella. No, guarda, oggi era il mare stamattina bruttissimo, tutto una scuola alla grande. Invece stasera ha calato di parecchio, speriamo che domani non riprenda. Ma domani ci vai, io ho due scatole di vermi nuove, di americani. Se ti fai trovare ci andiamo. Non so, sperando che il tempo sia buono, ma dice che peggioramente. Vabbè, sento un po' di propagazione, non capisco da dove provenga, ma è un bel forte. Non so se la sentite anche voi. Oh già. E anche io, infatti ho difficoltà a copiare bene i loro passaggi. Perché sono in FM? In FM sono tutti. Io li sento un bel forte lo stesso comunque, in ogni caso. Quest'anno la propagazione si è aperta per Roma, tutte città che erano ben difficili da arrivare. Ho parlato con Roma, con Venezia, con Lucca, un sacco di città che in tanti anni di frequenza si rendono qualche due volte. Oh Gianni, ieri notte intorno alle 11 si faceva una bella di macchina, no? Per lo vedere un amico sulla base magnetica, come messo la faccia sulla riga del terrazzo, stava spazzolando, sta tornato su in alto e sento questa ruota lì, c'era due di Venezia, uno di Jesolo, uno di Pavia, cazzo fa penso proprio a bussare, cazzo bussato mi ha fatto entrare, arrivavo a Venezia, no, sappiamo no, con 200 cazzo. Hai visto le luci che ti ha attaccato l'antenna, hai sentito? Sì. Senti tu anche te l'ha attaccata l'antenna. Non ti sono mascherato. Se ci ho piazzato l'antenna di macchina. E la stavo trovando, la stavo cercando di installarla, perché devo trovare un amico che gli serve. Sollevarla, ho i piranti nuovi, ho tutto quanto, ho già tutto bello impacchettato. Spero che questo fine settimana, se il tempo mi assiste, ma ho capito dalle previsioni del tempo che dovrebbe far brutto, però se mi assiste riesco a tirarla su e poi probabilmente riesco a provarla anche con la nuova radio, chissà. Boh. Ma il 4:40 quanto lo sarà? 4:40, boh, stavo pensando attorno a 400, giusto perché gli ho aggiunto i chip per la connessione al computer e il cavo, ma se uno mi fa 380 glielo do. Ascolta, che 440 è? 440 normale, con l'accordatore interno. E appunto stavo dicendo, con i chip della connessione al computer più il cavo, già inseriti, questi li ho messi io due mesi fa, siamo già a maggio, prima della fine dell'anno. Ah, no, già, credo, perché se era quella con l'accordatore incorporato, cioè, vabbè. No, perché io ne ho due di quelli, c'ho quello con l'accordatore incorporato e quello senza, capito? No, già vanno benino, no, non si possono lamentare, certo, c'è di meglio, però sono apparati di vecchia generazione. E il 140 ce l'hai, Fabio? Guarda, tu pensa, 140 ne avevo tre, uno l'ho regalato a Natale, ho fatto un regalo a un mio amico carissimo, che ha fatto dei favori, che mi ha fatto risparmiare una barca di soldi. Siccome lui aveva un malattino dei 13, allora gli ho fatto un pacchettino e gli ho fatto un regalino per Natale, capito? Rimasto a bocca aperta. È un bel regalo. Il 140 per me è meno anche difettoso del 440. Il 440 va bene, ma ha dei difetti che ogni tanto compaiono. Tipo, non so se chiamarlo difetto o no, ma anche il fatto che strappi di radio, se ne va un po' di radio. Mentre il 140 tu la regoli e rimane così la radio, e il 440 scivola un po'. Bene, signori, io vi saluto, vi auguro un buon 144, una buona giornata per domani. Ci sentiamo tutte le prossimine, quelle di per me, perché casa maggiore domani tra banco. Ciao ciao, buonanotte a tutti. Io ho due linee complete, 4.30, ciao, comprese proprio nuove all'epoca. Ciao Luigi, buonanotte. Con l'alimentatore, l'anti-250, l'SP430, la colonnina, poi microfono palmare e l'MC60. No, e di nuovo, se lì sono da vetrina, non c'hanno un graffio. Certo, paragonati a apparati più recenti, ci sono dei baracchini, però ce li ho, mi piacciono, non mi danno a mangiare, quindi. Un attimo che salutiamo la Leoncina. Ciao Leonci, buonanotte, avanti, salvato. Ciao Leonci, buonanotte. Ciao Leonci, buonanotte, stiamo bene. Già ci sentiamo alle prossime. Sono belli apparati, sono dei belli apparati, solo che sono apparati dell'amatoriale, è quello che c'è. Se fossero stati baracchini l'avrei già avuto. Lo so, però diciamo, sono apparati vecchi, io di vecchia data, però tenuti bene, perfetti, io ce li ho sempre, anche se molti di loro sono baracchini, io li confronti altri apparati, e vabbè, certo, cazzo, che sono, preparano un apparato magari di 30 anni fa con un apparato di un mese fa, di ultima generazione, è normale, però nel suo complesso sono apparati utili, poi 430, molti allenatori, chi ce l'ha, l'ha sempre tenuto, non l'ha mai venduto. Io ho costruito allenatori che in stazione ce l'hanno. Certo, poi se ti vuoi fare un altro apparato, un FT 920, un FT 1000, sono dei giocattolini. Sì, vabbè, ma non sono nemmeno baracchini, perché se vanno da 0 a 30 ti permettono almeno di ascoltare su certe bande e niente, hanno una modulazione che è a dir poco perfetta. Che cosa, non puoi paragonare a un baracchino, dai. È poco più di un baracchino, dico 140, però fa molto di più di un baracchino, futti di. Ma io sto dicendo già, baracchino nel senso, il paragone tra uno di questi apparati così e un apparato sofisticato tipo un FT1000, la Yaesi, un 920, sono apparati stratosferici rispetto a questi qua. Io ho capito il paragone che sto facendo. Lo so che se per un baracchino, confronto a 140 è molto meglio 140, cazzo. Lo sono i grandi della categoria. Ma che quinta ancora meglio? Sono ancora meglio, ma... Mi sarebbe preso salvato la marca quinta. Adesso li arriva. Sono stati buoni, non è che... Però... capito, è così. Ce ne sono tanti apparati, tu lo sai, no? Quindi se uno deve comprare, all'occhio non c'ha tanti soldi, allora prende e compra tutti i modelli e si rende una stanza di 40 metri quadri e fa l'esposizione. Capito? Io l'ho vista quando l'anno scorso sono stato in Germania, a un radioamatore di Stoccarda, di cui è un amico di mio amico, mio lavora tanti anni in Germania, mi ha portato a casa sua, sono rimasto scioccato. Mi sono seduto al centro della stanza su una sedia e sono rimasto mezz'ora girandomi in fondo. Tante di quelle radio, cazzo, non le ho mai viste insieme, ma non decine, centinaia di radio. Radio amatoriali oppure c'erano anche baracche? No, questo è radioamatore, cioè aveva la parte radioamatoriale e poi aveva delle librerie alte, tutti i baracchini, baracchini americani, di tutte le maniere. Vabbè, questo è un direttore di là. In giardino c'ha 5 tralisci uguali a quelli di Walter, 5 ne ha. E penso un po', io mi sono rimasto fatto scioccato. Vabbè, chi ce li hai su? Allora... Salvatore, cambiamo anche la moto. No, negativo. No, ho giusto, avevo questo budget. Riuscivo a farci entrare giusto questa spesa, di più no. La differenza è che pago una cartella esattoriale. Preferisco. Anche tu sei stato ferito da Buda. No, ok. Cioè, bisogna. L'utile al dilettevole, visto che anche queste cose sono da pagare, bisogna ricordarsi. E quindi me la pagherò. Beh, certamente che sì. C'era qualcuno che chiamava. Attenzione, canale 10, se ascoltate, l'isola della Sardegna che chiama e si sintonizza in ascolto, cambio. Un attimo, Bianco, per me, che devo chiudere un po' di porte, che il resto della famiglia sta mettendo a dormire. Non chiudere mai quella del cuore. Vabbè, già. Io Fabrizio. Stavo dicendo, ci sto ancora pensando a quell'orato, io ci l'ho detto, già, ma te lo passo il coso. No, tanto sto proprio candela sotto, ma hai paccato tutto. Ma tu stata per fare chi? No, era più grossa. L'ho vista e dopo alla fine l'ho vista, quando ce l'avevo sotto l'ho vista. E c'avevo anche la frizione mollata, e quindi come ha dato la tirata, l'ha fatto giù, però poi ho sentito la canale gira, ho detto no, cazzo, non è possibile. Che succede? Cazzo, dà fastidio, quando c'è a 2 centimetri, cazzo, ti scappa. Già mia la sentivo, cazzo, avevo un'adrenalina addosso, non ci credo. Sto già pensando a sottotare la piccola. Vabbè, già così me ne sono scappati due. Una plattavona una volta, quella lì era un bel grossa, quella cioè l'ho portata sino quasi alla battigia, mi sono abbassato come si fa, no? Aspettando l'onda per tirare la lenza. Perché poi alla fine la tiro a mano, non la tiro mai con la canna. Alla fine quando arriva l'onda prendo la lenza e la tiro. E mi sono abbassato per farmi vedere, la canna era in alto e l'orata si vedeva praticamente a pelo d'acqua, non ti dico altro, che un bestione. Sono passati di quei turisti che raccolgono le conchiglie, oh com'è bella, com'è duri, ma ha spaccato. Lo so, anche a me è successo di prendere, la cazzo, succede purtroppo. La faccio tra vedi lì, cazzo, a mezzo metro di stampa. Piccolo Giorgino, l'altra volta che siamo andati di al Lido, di vicino alla torretta, dove c'è il bar della torretta, dove stai tu, lì. Stavo sulle scaline, lì, dove c'è quella torretta per le cose, la postazione del bagnino. Lì, lì. Siamo messi sulla, eravamo sulla destra, e io ero un po' più, su, più sulla destra e lui un po' più sulla sinistra, lì vicino. Beh, cazzo, la sera ci siamo fatti i groghi, ho preso, non dico grosse grosse, ma ho preso un bel po' di oratelle, sui 400 grammi, tutte così. E poi Leoncino aveva questo pesce che li mangiava sempre l'esca, stava lamentando, cazzo, mi mangia sempre l'esca questo pesce e non riesco a prendere. Tu dammi la galla, metti un po' più di come si prende. L'ho aspettato al tocco, mezzo di mormorone che gli ho pescato. Ah, a proposito, se mi sono ricordato, sabato sera, no? Ero lì alla rotonda, sono arrivato in macchina, perché già avevo questo sì, questo gruppo di ragazzi, e avevano un pezzo di tavola grande sotto il muretto. Ma cosa abbiamo fatto? Mi sono avvicinato, io non ho mai visto qualcosa del genere di persona. Aveva una seppia che era stata attaccata almeno un metro, una seppia gigante, già io cazzo non l'ho mai vista in persona. E l'ho trovata nel bagnosciuga, era mezzo moribonda, perché sicuramente qualche, come si chiama, qualche gomone gli ha fatto una fritta almeno di 30 cm sulla testa, era un taglio grande, però era ancora viva. E questi ragazzi l'hanno raccolta al bagnosciuga, era lì tutto un palmo di acqua, l'hanno portata lì e stavano aspettando il padre, la ragazzina aveva avuto 13 anni, aspettando il padre per portarla via. Era enorme. Ma sicuramente è roba che c'era a largo, mi sa che è tutta bagnata, non lo so se sia buona, così grande sarà anche dura. Io ho preso un po' di 5 kg una volta, proprio qua, di fortuna, ho preso, già sono andato con, sono andato al molo, lì mi conoscevano tutti, c'avevo bocconi e due o tre sardine così, che avevo buscato in pescheria, avevo comprato, e avevano solo, avevano quelle fitte, te le do dalle mie, ho detto che mi servivano per pescare. E fatto sta che sono andato, che si chiama, tu con i bucconi, no, che non si becca nulla, mi magari con la sardina prendo e metto il lancio con i bucconi, se prendo una tanuta, ma di quelle, le tanute sono tipo Sara, gli scuri, però sono di fondali un bel alti. Ho preso una tanuta, sarà stato 800 grammi, roba del genere, ma come non si pigliava nulla? Dopo di notte, con la sardina, l'ho messo a pelo di panchina, che mi si attacca una piova. Beh, lo so, succede. Però già, questo qua, poi è arrivato il padre, questi ragazzi, lui c'era in buona, ma era grandissimo, io non ho mai visto una cosa del genere di persona. È enorme, sicuramente, come hai detto tu, qualche gomone a largo gli è passata sopra la ferita, e poi la corrente l'ha portata in riva, però era ancora riva, perché come la toccava si muoveva, quindi è una cosa successa poche ore. È enorme, poi dice che è buona, io poco ci credo. O che l'ha sparata qualche sub e magari gli è scappato. No, aveva un taglio lungo, almeno di 40 cm nella testa, capito? Come tipo una lama, qualcosa, non era un fucile, non penso, era proprio un taglio netto, tipo un coltello. E quanto avrà pesato? Ma non so, per me peserà più di 5 kg, secondo me. Era, cazzo, da mettere in piedi, era un metro, era gigantesco, cazzo, impressionante. Una cosa mai vista di persona. Ma le foto non le avete fatte per mettere sul giornale? Io no, loro non lo fatto, io prima ci ho pensato, no, perché poi ho fatto il telefonino. Però cazzo era una cosa spettacolare da vedere. Se ne agganda. senza pescarla l'hanno presa lo stesso. Vabbè. E la seppia lo sai che morsica, ma una volta mi ha morsicato, io non lo sapevo. Allora, io ho il vizio che quando sto pescando, specie quando il pesce ancora non mangia, sto con la pila sempre cercando. E così mi sono accorto che aveva attaccato il polpo, quel polpo là grande che ti ho detto. E un giorno vedo questa seppia grande, non enorme, ma grande, bella. C'era stata, penso, 500 grammi, così. E stava salendo, come vedeva la luce saliva, ho detto a Giuseppe, dammi il coppo Giuseppe. Cosa c'è? Non ti avvicinare che se no scappa, dammi il coppo, poi te la faccio vedere quando l'abbiglio, si l'abbiglia. Cazzo, le ho puntato la luce, le saliva su e io col coppo da sotto, da dietro, cazzo che l'ore. La giubilata come ti nuda, come se stessi prendendo un pezzo di bambino. Allora, così perché sono attratto dalla luce, è più facile. Però è così, non ci vuole il culo, molte volte di... Fatto pensare che molte volte cazzo andavo... Ah, una volta mi sono dimenticato la maschera a casa, cazzo, sei voi. Ma chi è Fabrizio? Cazzo. Io maschera. Sì, ho trovato il mattino normale, no? E ne scatta quello che ho beccato, vabbè, ho beccato sia tutto a mezzo chilo, per l'umacchiera. Ma io Fabrizio, per cortesia, spegni la radio, vai a nanna che è già tardi. Cazzo, sei appena entrato, tu già sei dettando legge. Perché così, è la legge del più forte. La vostra cosa più forte la negozio. Di che ti metti a correre? Poi non vi dà male, di un attimo come devi un po' scendere il peso. Non sei più un ragazzino. vabbè, ci sentiamo. Ciao già. Ciao, la benedizione ce l'hai data adesso. Cavagava. Se vuoi restare si ve ne accetto, c'è anche Salvatore, Salvatore. Cappa, chi c'è? Ma ci mancherebbe altro già, è che sono un po' stanco, quindi sono entrato giusto a salutarti. Ehi, vabbè, se è stanchezza da lavoro già va bene. E Salvatore sì. Conosci Salvatore nuovo, è nuovo, nuovo, nuovo. Ah, no, pensavo che era Salvatore, Salvatore, allora, non ricordo il nominativo, trattore, dai. Ah, barra agricola, stai dicendo. Non negativo, barra agricola, sono io, Tu pensa già che lo conosco forse quando aveva, due anni. Ah, Salvatore barra agricola. Non si ricorda che sono io. Io consulto il padre, la madre e compagnia cantanti, dai, della sua zona. Sì, una volta me lo ricordo che tu gli hai detto qualche cosa per farlo arrivare a Chieri, però non ci arriva. Già lo so, no, ma poi anche il figliuccio di dove sto lavorando io. Cappagatto. Sembra un ragazzo attore. Se una volta che non lo sento, mi la rifaccio con quel telefono, non ho più sentito. Sì, boh, adesso magari è il periodo di lavoro, quindi lo sentirai solo sulla barra. E cazzo. No, ma su 40 ci sono i trattori, no, su 40 sono i tratturisti. Ho capito. Quando non è tratto oggi. No, negativo. Vabbè Fabri, pescando fanno giù. E la fanno pescando, ripeto, già stanno pescando. Tutti. Oggi c'era un secondo maestrale, stamattina bruttissimo, poi di serata, calato, visto che c'erano parecchi pescando, non so se hanno preso qualche cosa. Ho capito. Ma tu sempre quel solito QTH sì. Sappa. E tu? E io un po' più giù di te, dai. Diciamo presso a poco vicino al fornitore nuovo. Capito, benissimo, nessun problema. Capito, va benissimo. Ok, avanti già. Comunque ho notato una cosa che si pesca bene di notte lì. Lì dove c'è la torretta di controllo. Allora, poi rilancio a Salvatore. ho pescato già con, non so se tu conosci il barchino, è un barchino divergente che qualche mese fa lo stavo usando molto a Platamo anche. E visto che avevo un po' di tempo disponibile sono andato anche io, no, a farmi una passeggiata, ma lo facevo circa, che ne so, dal quarto pettine andavo sino al secondo, poi ritornavo al sesto e poi di nuovo al quarto, sempre con questo cavolo di barchino qua, e ho preso due belle spigolette. Ma ho capito qual è, quello che con il condone della battigia Ottivi l'ho visto lavorando, cosa c'ha sotto dei palami? No, no, praticamente il barchino ti diverge verso il largo, ti porta la lenta verso il largo, no? E tu nella lenta madre ogni 3 metri ci metti un filaccione da un metro col pesciolino attaccato, no? Poi fai altri 3 metri e così via. E poi mettere sino a 5-6 di quei pesciolini. E devi andare a tornare da una parte all'altra. Quando c'è schiuma però lavora bene. Quando c'è mare calmo non fa. Cappagappa. Sì, la spigola l'ho presa anche io. Ho fatto lanciando e attaccandosi. E a Porta Torres, dove vado io, spigola ne ho preso due, sono state tutte da 1,2 kg, tutte da 1,2 kg, 1,3 kg. E stavamo prendendo con i lenza galleggiante e i bigattini. Allora ho battuto, 1,8 kg sono arrivato, e l'altra invece 250 grammi. Diciamo che tolte, mi sembra che ci sono anche su Facebook, ma vabbè, tu non sei, non mi hai accettato l'amicizia, che vabbè, dai, vi saluto ragazzi che sono stanco, le lancio a Salvatore, aspetto i saluti e poi vado a nanna. Sì, non te l'ha accettata perché sicuramente il cognome non me lo ricordo, non mi quadrava, io di solito l'accetto solo la gente che conosco, dico la verità. Anche io. KT, ti saluto. E comunque ho un amico che lì a Badesi con il barchino fa strage di spigole. Strage, ne prende veramente tante con l'artificiale, va avanti e indietro, ma fa strage. Sì, no, ma diciamo che mi è entrata in testa questa cosa di farmelo, di usarlo, di verificare come andava, e ha funzionato. Poi mi ho fatto qualche bella camminata anche senza prendere niente, però poi la cosa è stata ricompensata perché ho fatto una bella pescata, tutto in un giorno addirittura. L'ho fatto una alle 9 e l'altra alle 10, quindi poi ho continuato sino a mezzogiorno, ma poi me ne sono andato perché non mangiava più. Comunque è andata bene. Va bene, signori, vi risaluto, lasciatevi andare che sono stanco. Ciao, buonanotte a tutti, non riprendo. Ciao, ti sentiamo. Ciao, Dio, ci sentiamo, stavo bene. Alle 2, ciao, ciao. KT, ciao, buon tutto, buonanotte. Riprendi Gianni. Cappagappa. E col barchino non voglio vedere come si fa, che lo devo copiare. Il mio amico l'aveva comprato su internet, però se ne è rifatto lui uno. Cappagappa. E ti porta verso il lago, ti porta. Perché è divergente, capito? C'è un pattino che è più alto dell'altro e quindi tende ad andare verso l'esterno. Poi ti tiene il mare, non è che ritorna con le onde, niente, ti tiene proprio la lontananza che dall'inizio ti tiene. Sì, lui diverge, tu più cammini velocemente più lui va a largo. Fagatto. Ma è una specie di traina, una traina diciamo un po' volgare, ma è una traina. È una traina da terra. artigianale. Ma io ho visto anche un'altra cosa, il motoscafo telecomandato che attacca l'anima e te lo sopra le lenze e le fanno portare al motoscafo. Poi è arrivato a un certo punto, c'è una specie di scivolo, tirano la canna, la lenza cade giù, la mettono in tira quando è molto lontana. Non ritornare indietro il motoscafo. E vabbè, metto di ce ne servono 50.000. Questo il barchino è veramente, veramente interessante. Sì, vabbè, prima si faceva, invece che col barchino si faceva, si metteva sopra un pezzo di polistirolo, poi ci doveva essere il mare favorevole, quello lì, sopra un pezzo di polistirolo e si faceva andare a largo, poi si tirava la lenza, di modo che te la portasse a largo senza lanciare. Certo, certo. Questo principio, diciamo che è stato migliorato col marchino avendo i due pattini che sono di uno più profondo dell'altro, quindi essendo asimmetrici va a largo, prende la deriva, capito? No, pagato. Io mi ricordo che tanto tempo fa lo faceva il padre di un amico mio, però lo faceva, li metteva dei filaccioni con tanti ami sotto e con le esche e lo faceva andare così come il barchino. E poi quando c'era il pesce che tirava lo riportava in riva. Ma è questa roba pescando, orate di tutto. Ti credo, no? È un ottimo metodo. Poi lì a Badesi, nel litorale di Valledoria, con l'apporto del fiume si avvicinano moltissimi predatori. È veramente fenomenale. Un giorno me ne ha portato 3 di spigole. Non sapevo più dove mettersi. Ogni volta che metteva il barchino lo riportava a riva con due o tre spigoloni attaccate. Ma lui sa forse il punto dove c'è il passo là. E già di Badesi. Camminare ad andare. Sì, ma Badesi come zona di pescato è buona. Poi vedi, se hai visto, se l'hai visto anche Tino a Platamona, il principio credo che sia valido anche qua, alle nostre latitudini. Io l'ho visto ai pittini facendo, al settimo pittino esattamente, alle 6 di mattina. Vedi, si fa, si può fare. E ci sono, penso, buoni risultati. Ma riprendi tu e fai girare, vai. Perché fai girare? Non mi ricordo più chi c'è. Avanti, chi è rimasto? A te mi sembra Nando, ce l'ho io. Ma non è chiuso, ho detto che stavi all'ascolto. Ah, vabbè, la riascoltava perché non c'è un cazzo che farà Siago. E vabbè, tanto. Parli con noi e via. Guardo. modulato 9. Ah, vabbè, vabbè, perché lì poi è buttato da giornale, quindi è per quello, sì, vedi. E K, K. Di Pro, che ti fa? A me? Che frequenze ti fa il Di Pro? Allora, fai 40, 20, 15, infatti la so, cioè la corda per essere, fai il chiacchiere qua, capite? Però c'è quella roba, niente, niente di più. Ma cos'è, l'accordatore da palo o è il balum? No, l'accordo da qua, della stazione. È un normale di polo, capito? Senza accordatore da palo, praticamente, l'accordio da qua, ma dentro la stazione. Ho capito. No, io di poli non ne ho. Ho una verticale HF e con quella cerchiamo di fare un po' tutto. Un attimo di bianco. Ma sai cos'è il problema? Che qua utilizzo questo di poli, poi c'è altri antennini, perché non mi interessa guardare altro di più. Invece c'è una stazione equitata alla estiva, vicino al mare, dove lì allora la musica diversa, c'è un freccio di 8 metri con due direttive, una 5 di 20 e una 3 di 20, una 20 di 20. Poi c'ho varie verticali, sempre per decametri, che c'ho di puri, niente. Sono più per la licenza di ascolto, primo ecco. Mi diverto così, poi ogni tanto qualche collegamento in 26, poi ne ho fatto una centinaia, in 30 anni di attività, niente di più. Come apparecchiature mi difendo, l'unica cosa che mi manca è il passare il famoso esame. Ecco. Io ho preso la patente lo scorso anno, però con l'esenzione, perché ho il titolo di studio. Elettronico, prodotto tecnico. Sì, elettronico. Vabbè, però purtroppo mi mancano, io studiavo delle professionali di tecnica e c'ho solo una qualifica che la davano dopo i 3 anni. Il quarto e il quinto purtroppo non ho finito, e altrimenti l'avrei avuta io d'ufficio. Praticamente questa che ho adesso è la Game Master, la Sirio, ed è per la 27, questa copre dai 26 ai 30 MHz, e poi ho l'antenna, la verticale HF, che praticamente è autocostruita, fatta con le indicazioni di altri due amici della frequenza, e quindi ne abbiamo fatto 3 coppie. E niente, e questa è la utilizzo per andare da 0 ai 30. Sì, sì, allora ascolto a tutte le parti, sono sempre in sintonia, sempre in monitor, anche in macchina. Quindi niente, poi giù nel mio quotidiano c'è ancora la Nova 1, c'ho un X 7000, c'ho la X 50, ho diverse antenne, capito? Ti ripeto, l'unica cosa che non sono mai riuscito in 2 volte c'è la telegramma è abbassarlo. E mantenere solo quella, per essere proprio tutto completo e poter utilizzare la caricatura ciò senza problemi. Eh sì, ma d'altronde andare sulle bande amatoriali senza nominativo è un rischio per chi lo fa, e chiaramente se ne assume le conseguenze, ovviamente, no? Questo già sei consapevole. Ti ripeto, io sono 30 anni che faccio il radio, quindi quello non è mai successo, giustamente, se non c'è un nominativo, c'è un attivo, cosa entri, cosa fai, niente puoi fare. Ti fa l'ascolto e basta, almeno dove, dove puoi fare l'ascolto. KK. Aggiuravit. Ma è qua sulla 27, ma entri regolarmente, vabbè che io sono un periodo che non, è, non sono molto attivo. Allora vi ascolto sempre, ogni tanto veramente ci sentiamo, magari quando entro io non ci sei tu. Non commerciano i tempi. Sì, non sono, ripeto, molto, molto attivo, accendo raramente. Diciamo che spesso il fine settimana preferisco che c'è un po' più di tempo, un po' più di disponibilità per farmi un po' di chiacchierate anche con un tono della voce un po' più decente. Adesso sto praticamente sussurrando per non disturbare il resto della famiglia. Ma diciamo io non ti ho mai sentito operando in HS, eppure io faccio tutti i giorni, giro, vado. Sento gli altri, però a te non ti ho mai sentito. Ma operi in HS oppure ancora non operi? Ah sì, sì, sì che. Scorrazzo, scorrazzo. Poco scorrazzo. Ma ti ho ripeto, ascolto fra gli amici. Tutti gli altri ragazzi di Sassari e provincia, perché stati sui link, sui punti sardi, su quei corsi, un po' dappertutto, non ti ho mai sentito. Però io non vado né in U né in V, non c'ho neanche l'apparecchiatura, né non mi interessa. Io sono più che altro sui 40, 40-80. Ah, non fai sui punti VHF e VHF? No, no, non mi interessa. Vai, e poi sono comodi. Sì, ma non mi interessa. Non, usare i punti non me ne frega niente. Mi piace riuscire a fare un QSO agganciando un corrispondente senza punti. Allora, vabbè, quello è un altro discorso, certo. Però se sei qua in zona e sei in macchina e magari fai una cazzata sigillata, posso dire, una cazzata verso Morese o verso Cagliari, vai in Corsica, VHF, con i punti parli con tutti quanti. Però che magari l'HF ti viene un po' difficile a poter agiti corti, capito? E più è come per quello, non perché è bello il collegamento con i punti. Sicuramente mi devo fare un collegamento senza punti, magari a 3.000 km di distanza. Io la concepisco così, capito? Ma niente, a me piacciono le frequenze classiche, i 40, gli 80, anche i 20 metri, non ho fatto un granché in 20 metri, però diciamo 40 e 80. Ma diciamo, ieri c'era un po' di preparazione di notte, un 40, un 20. Cioè, la casa sembra per quello, con un punto di nazionale, magari con un portatilino, parli con tutti i cari. Solo per quello, ma non è che tu lo resta, non è che sia, non è che puoi, diciamo, fare collegamenti in diretta a lungo raggio, se vuoi sempre, è molto più difficile la cabeza. Vabbè, però niente, ho avuto già belle soddisfazioni. In 40-80 riesco a spingermi abbastanza lontano, in 10 metri lo stesso, e questo con il 4-40. Spero poi quando arriverà l'altro che toglierà un po' di fruscio con i filtri di cui ho dotato, nella fase di ascolto, che mi permetterà di apprezzare ancora meglio l'audio dei corrispondenti. E questo è quanto. Queste sono le frequenze che io lavoro, le altre sinceramente proprio non me ne frega niente. Una nostra scelta, dove ci sono tantissime amatori da pensare con la terra, per dire che magari hanno le apparecchiature a tempo, cioè guardate che manco la cena, perché non piace, non sono tantissimi. C'è quelli che magari non li senti poche niente in altra oeste, però gli piace il cibo doppio, ci sono tanti. Ognuno c'ha le sue scelte e sono di fare radio. Assolutamente vero, assolutamente così, è così. Fermo restando che poi il famoso mito che il fatto che siano frequenze radioamatoriali siano bazzicate da gente che ha un approccio super corretto nei QSO, nel profilo dei QSO, nel dialogo con i propri corrispondenti, è un mito, perché purtroppo paese che vai, gente che trovi, e in realtà però tutto il mondo è paese, la maleducazione che spesso si incontrano sulla 27 te la ritrovi per assurdo anche moltiplicata per 2 o per 3 in frequenze radioamatoriali a seconda di chi bazzica, per cui insomma mi spiace un po' quello, ma in ogni caso in linea di massima c'è una certa correttezza e si apprezza quando questa viene espressa in queste, soprattutto con corrispondenti i cui segnali sono al limite, e comunque fa piacere riuscire ad agganciarli. Allora, ma un mio parere, che infatti molti ragazzi dispensano la CB, e questo mi crea fastidio, soprattutto sapendo che la maggior parte provengono da questo mondo, e soprattutto credo che non è detto che le frequenze amatoriali siano tutte corrette, perfette, tutti gente, ma è vero, perché io ascolto, anche se avrei ascoltato, radioamatori che si mettono per tanto. Io l'altro giorno stavo ascoltando domenica, c'erano dei collegamenti e entravano i radioamatori con le sigle che li sentivo fare dall'altra parte, entravano in un'altra frequenza per mettere la portante per non fare il collegamento all'altro, per parlare male, ma tanti, quindi come hai detto tu, molte volte la CB si porterà la valutazione, non c'è frequenza. Sì, no, guarda, è una cosa che io ho avuto modo di constatare, che mi è, sotto un certo punto di vista mi è un po' dispiaciuto, perché ad esempio in 40 c'è un radioamatore che è oggetto quotidiano praticamente di sovramodulazioni, costantemente, ogni giorno, musica, portanti, la peggiore espressione della maleducazione, e la vedi in quelle che sono frequenze radioamatoriali, cioè che quindi Dio santo, anche la gente che si mette a trasmettere in linea di principio dovrebbe essere gente con una certa un certo background che lo dovrebbe spingersi a comportarsi diversamente. C'è un altro che mette costantemente le marcette fasciste, trovi veramente le cose più allucinanti, e non pensavo di trovarle. E questo chiaramente gioca a favore del mito, un mito crollato miseramente, possiamo dire. Sentite. È così, infatti io mi ascolto, certo di quelle portanti ci sono molti, molti pirati che mettono musica, però è capitato anche di ascoltare tipo due radioamatori della stessa città parlare con le sigle e poi dire, io ci spostiamo là che c'è il tizio che sta facendo il collegamento che io non sono riuscito a fare, allora passo là per mettergli la portante in modo che lui non faccia il collegamento, capito? Quindi ho fatto di sì, qui i regolatori che dovrebbero essere quelli perfetti, educati, fanno peggio dei cibi. Ho sentito una vocina in fondo, possibile, c'è qualcuno? Stavo chiamando io, sono un po' preso la gola a volte. Sì, chi è? Gianni, mi stai sentendo? Ciao Gianni, sì, ti sento. Un sibilino, ma ti sento. Dove sei ritratto? Sì, no, non ce l'ho fatta neanche a uscire, della verità, mi sono preso un attimino l'aerosol, ma per carità, guarda, oggi mi sta ammazzando. Ti capisco perfettamente. Molto, molto, molto bene, ti capisco. Comunque, sono in compagnia di un altro amico, te lo rilancio così ti saluto. Ciao Gianni, mi ha ascoltato, se mi ascolti riprendi. Allora, sento che hai parlato, mi correme, qua lo sai cosa sembra, mamma mia, guarda, una barca a vela, aiuto, proprio non si capisce niente stasera, sento molto più perché è forte, poi poco fa sentivo Gianni, non so che altro ci sia, e via dicendo, tutto lì, come ce l'hai il correme lì, Volpe? Vabbè, adesso se mi ascolti, dai, Fabrizio da questa parte, tu mi ascolti adesso. Gianni, lo stai sentendo a Fabrizio? Ma guarda, niente, è proprio completamente coperto. Completamente coperto, non sai cosa vuol dire. In pratica significa che la sua modulazione è soppressa, proprio soppressa dalle portanti QRM e compagnia bella. Ecco che è Fabrizio. Sì, io ho sentito bene, facevo due, perfetto, senza problemi, se ti faccio la luce di nudo. Va bene, dai, io vi lascio adesso, mi sposto a Finino, devo guardarci il filmato e poi vediamo. Va bene, ciao, sono appena fatto piacere conoscerti e sentirti per la prima volta. Stammi in me, saluto anche l'altro amico che avevo lui, e ci sentiamo le prossime, andiamo avanti, sono tu. Ok Fabri, piacere tutto mio, ti ringrazio per la chiacchierata. Ti rilascio Gianni così, visto che lo senti, faccio mandare almeno i saluti. Gianni, vieni avanti, saluti per Fabrizio che sta chiudendo. Ciao Fabri, buona. Non problemi. Ti saluto carissimo, oggi ascoltiamo le prossime. Adesso buon proseguimento, buon punto. Noi lo proseguiamo con l'amico, vediamo un pochino se riusciamo a ascoltare. Ciao avanti a te, Volpe. Ok, ciao Gianni, buona parte a te, ci siamo ripresi già a girare. Dottor Room, come on. Come? Ciao. Ben sentito anche a te, dai. Avanti. No, non ascolto che sta a dire. Dottor Room, lo copi a Gianni. Cappa. Mi senti già? Sì, ciao già, rientra. Sì, no, non sono neanche uscito, non ho avuto la forza. Cioè la forza. Non ho avuto il coraggio della verità perché mi sono preso un attimino Rido Flux, così. Però non lo so, stasera ho timore che ci siano più polline del normale in giro. Perché poi anche quelli degli aghippini mi fanno un po' effetto, sai, con le polverine. E ce n'era qualcuno in quella zona e stasera ho proprio paura perché è più terrificante di ieri sera e il livello dei polline. Quello giallo. Non ti ho sentito. Ho detto quello giallo, quello di pino. Quello? Quello di color giallo. Maresi, dai, quello che scuote dagli aghittini. Purtroppo è una guerra continua, guarda, io, questa cosa era piccolina, adesso si è peggiorata, sto affrimandomi. È impressionante, guarda, è una cosa impressionante. secondo che fisico trovavo a quest'ora, guarda, l'avrebbe recuperato, ma è una cosa impressionante, mi fa morire, guarda, già, un fastidio che non viene bene a dirne, boh. Avanti il volpe. Riprendo io, Salvatore. Però, signore, siccome per me è tardi, vi devo salutare. Buon proseguimento, se rimanete, io sto chiudendo, dai, correti definitivo. Saluto nel doppio room, carissimo, e saluto anche a te, Gianni. Buon proseguimento di questo, correti definitivo per me. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Salvatore, ci sentiamo. No, chiudo anche io, vai. Saluto tutti cordialmente, anch'io ne approfitto per andarmene a letto, certo. Ciao Salvatore, ci sentiamo. Già, stai uscendo basso. Sto parlando basso, se lo disturbo. Saluto tutti cordialmente, ripeto, faccio correti anch'io. Buona serata, se continua. Ciao ciao, mi faccio un diretto, vediamo se ne vengo qualcuno. Diversamente, e me ne vado al TV. Ciao, già ci sentiamo, buonanotte, buon proseguo. Salutami.